glaube ich, braucht vielleicht ein Gott, es steht daran, morgen schon ausbezahlt. Da kommt dazu die Buchhalterin des Instituts herauf, jeder, der Anspruch auf Reisekosten hat, sollte morgen bitte einen Ausweis bei sich haben. Es genügt also eine Identitätskarte. Zweitens, morgen wird also der Herr Becker den Hauptvortrag halten über den Kulturkampf, das Problem des deutschen Liberalismus. Und zeitlich und inhaltlich empfiehlt es sich, dass die Kommunikation von Herrn Kindern über belgische Liberale und Italien daran angeschlossen wird. Ich wäre deswegen sehr froh, wenn wir morgen wirklich um 9.30 Uhr und nicht um 9.45 Uhr beginnen könnten, damit wir dieses Programm abwickeln können. Allora, due cose. Domani mattina, durante la seduta, forse nell'intervallo, saranno pagate le spese di viaggio. Viene la ragioniera dell'istituto su per pagare queste spese e ciascuno che le ha riconosciute deve avere una carta d'identità, un documento. Passaporto, poi domani, oltre la relazione detta sul futuro campo, ci sarà una comunicazione di Dumoulin su liberali belgi e Italia. Perciò pregherei che domani mattina incominciamo, se è possibile, davvero alle 9:30, così perché abbiamo un programma abbastanza vasto, così possiamo portare. Adesso sei tu. Adesso, cominciamo con i lavori secondo il programma. C'è stata una domanda di ancora un'aggiunta alla discussione di ieri, ma credo questo faremo poi dopo, forse subito dopo la relazione del amico collega Passanel d'Antre. Adesso parla il professor Ettore Passanel d'Antre sull'eredità trasmessa da Cavour alla destra storica nel momento dell'unificazione dello Stato italiano. È giusto questo titolo? È rimasto? Esattissimo, sì. Ho visto anzi che gentilmente hanno anche poi riprodotto, e già era corretto un po' malamente lo schema della mia relazione. Avevo dato una bibliografia molto sommaria, guardando poi avrei dovuto aggiungere, e questo spiega i miei grandi dubbi su quello che dovevo dire o non dire, che i carteggi cavuriani per il periodo soprattutto che interessa, cioè l'ultimo periodo della sua vita, sono stati editi con un criterio stranissimo da un grande archivista che si chiamava Alessandro Luzio, che aveva delle strane idee però, cioè affettandoli secondo i tema, per esempio la questione romana, poi viceversa sotto questo titolo si trovano, non so, si trova l'ultima lettera di Garibaldi a Cavour, che spero di aver tempo a leggere, che non c'entra niente con la questione romana, ma è curiosissima perché dimostra che veramente Cavour a Garibaldi è riuscito a persuadere molta gente, aveva una certa arte di persuadere, ma a Garibaldi non è riuscito proprio a far entrare in testa niente di quello che era il suo programma. Ovviamente Garibaldi aveva diritto di mantenere il suo, ma è messo fuori con una tale ingenuità che basta con la lettera per smontare tutta la costruzione di Max Smith, famoso libro di Max Smith, in cui vuol dimostrare che Garibaldi era anche un genio politico, aveva anche un ingegno politico, diciamo così, un talento politico, e ce l'aveva, diciamo, messo di fronte a certe situazioni, ma non come costruzione di insieme. E con questo, ecco, lo dico soltanto, perché, per esempio, con questo ammetto che non ho neanche citato tutte le polemiche relative a questa eredità di Cavour, i libri di Max Smith, avrei voluto anche citare in fondo un bel volume, uno dei migliori volumi della storia dell'Italia moderna di Giorgio Candelor, il quinto volume che riguarda questo periodo, che forse mi riferirò. Ancora ieri sera, o avantieri, sono riuscito a leggere, questo va bene per i colleghi tedeschi, non so se sia qui presente, eccolo, Ulrich, mi ha dato molta soddisfazione certi accenni a un confronto fra il programma dei moderati e il programma dei democratici, di Mazzini in particolare, che ha infilato in un Sammlung di scritti che ha il titolo complessivo Nationalismus und sozialer Wandel. Mi è piaciuto molto, poi magari ne parleremo un momento. E poi anche di qualche altra cosa. Questo per dire che, insomma, naturalmente la bibliografia è molto semplice. Nel corso della discussione, forse il primo giorno, mi pare che tu hai evocato una frase interessante di Cavour come Tocqueville in azione, vero? Ecco, il momento in cui Cavour diventa palesemente attivo, e attivo sul piano europeo, dopo aver in fondo fatto il ministro riformatore con molte difficoltà, nel piccolo Stato, nel piccolo Regno di Sardegna, è ovviamente il momento in cui partecipa come plenipotenziario sardo, come allora si diceva, al congresso di Parigi del 1856. Aveva favorito, direi da giocatore d'azzardo, l'ingresso del Piemonte nella guerra di Crimea, e su quell'alleanza di Crimea c'è un libro ancora classico di Valsecchi, naturalmente. Però il momento in cui c'è da spremere il succo, si spreme il succo di questa guerra che parve a tutti i democratici, Mazzini scrisse una lettera feroce, aperta naturalmente, contro questa guerra pareva anti-italiana. E Cavour fece il giocatore d'azzardo pensando, una frase molto felice di uno scrittore francese, un biografo francese, di poter, come avvenne, scavalcare l'Austria inseguendola, perché l'Austria non partecipò attivamente, quindi il Piemonte fece più bella figura e ebbe una certa, poi era stato patuito che potesse parlare di questa questione. E come infilò la questione italiana in una piccola seduta supplettiva di questo congresso? La infilò con riferimento alle Romagne Pontificie, in cui le legazioni, come lo si chiama, individuando lì il punto critico sul quale parleva per spezzare il maggiore ostacolo alla liberazione dell'Italia superiore. Almeno dell'Italia superiore, non era ancora un'Italia, Cavour. La soluzione di Cavour, scrisse poi Minghetti in una lettera a Pasolini, che era suo grande amico Ravennate, poi anche ministro degli esteri del Regno d'Italia, per breve tempo, il 7 novembre del 1956, cioè pochi mesi dopo il congresso di Parigi. La soluzione di Cavour consisteva in una decentralizzazione, espressione un po' arcaica, in una decentralizzazione delle province padane dello Stato Pontificio, per evitare l'occupazione austriaca e appagare i bisogni dei sudditi, senza intaccare l'organizzazione romana, cioè il nucleo centrale, la struttura centrale dello Stato Pontificio, che invano i patrioti neoguelfi, a cui lui stesso aveva appartenuto, aveva fatto anche il ministro di Pio IX, che invano i patrioti neoguelfi avevano cercato di trasformare, di ridurre a stato costituzionale e, se non laico, semilaico. È inutile ricordare che in quell'avventura ci si mise anche Pellegrino Rossi, lasciandoci la vita. In certi discorsi non c'è nulla di più inedito dell'edito. In un certo discorso, come nessuno ricorda più questa lettera di Minghetti a Pasolini, nessuno ricorda che Cavour attribuì più tardi a Minghetti, in un discorso del 25 marzo 61, un ruolo più importante, e più importante persino del suo, al congresso di Parigi. Cioè, lui, Cavour, faceva da portavoce, ma chi gli ha preparato il materiale? Minghetti. E forse Cavour l'ha voluto fare per tirare su Minghetti, che era appena diventato ministro degli interni che da poco era diventato ministro degli, cioè no, non era ancora diventato ministro degli interni, ma era vicepresidente della Camera e si preparava a diventare ministro degli interni nel novembre del, anzi no, era già diventato ministro degli interni nel novembre del 60. Cavour dice che Minghetti, proprio lui, l'aveva spinto a dichiarare che il solo mezzo di mettere le Romagne e le Marche in condizione normale era quello di far sì che quei paesi potessero reggersi senza l'occupazione straniera, separando interamente l'amministrazione di essi da Roma e rendendoli civilmente, amministrativamente, finanziariamente indipendenti. Tre punti: civilmente, amministrativamente, finanziariamente indipendenti. Civilmente voleva anche dire secolarizzazione. E lì Minghetti, in quella sua nota, oggi dimenticata, ma che ha molto rilievo, era stata pubblicata, fu poi pubblicata anche in una raccolta di trattati, perché comparve poi dopo nei deliberati del Congresso di Parigi. In quella sua nota recupera una famosa frase di Napoleone III, e faceva molto comodo perché il protettore era uno dei protettori della causa italiana era il Congresso di Parigi, Napoleone III. E cioè Napoleone III, prima di diventare Napoleone III, come principe presidente nel 1849, nel momento della spedizione romana, francese a Roma, che poi uccise la Repubblica Romana, aveva scritto una lettera in cui aveva detto: benissimo, noi possiamo anche rallegrarci che l'ordine sia restaurato a Roma, però ci sono due cose importanti che devono uscire da questo, e soprattutto una importante, la secolarizzazione dello Stato Pontificio, che veramente era una frase piuttosto sgradevole per i prelati che ritornavano al potere. Come ognuno sa, la restaurazione di Pio IX fu una restaurazione teocratica, e dimostrava rivelava un aspetto della politica di Napoleone III che poi ogni tanto riaffiora, sempre contrastata dalla resistenza di quei clericali che in fondo l'avevano contribuito a mettere in sella nel famoso plebiscito che l'ha portato al potere e poi all'impero. Quindi Minghetti gioca su questo, e gioca anche in questa nota su un'altra cosa, sul fatto che mai queste regioni, queste zone, quest'area dello Stato settentrionale, del Padana potremmo chiamare, dello Stato Pontificio, era stata così ben governata come nel primo periodo napoleonico. Anche questo doveva piacere, diciamo, ad orecchie francesi. Nel primo periodo di governo napoleonico, cioè sotto il prima del 1815, sotto Napoleone I, c'era stato in questa zona il Code Civil, il Code Napoleon, e c'era stata una regolarità di amministrazione, anche se poi la coscrizione aveva portato a fenomeni di banditismo che sono stati studiati per i disertori, che sono stati studiati di recente. Quindi, rievocazione della migliore amministrazione napoleonica, rivendicazioni di autonomia e di secolarizzazione mai realizzata, e last but not least atto d'accusa contro la incipiente, lo stato di incipiente anarchia in cui scivolava faceva scivolare il malgoverno papale. Abilissima argomentazione, perché si rivendicava, non era un argomento rivoluzionario, ma un argomento collegato all'idea dell'ordine. E quest'ordine non poteva essere instaurato nella parte settentrionale dello Stato Pontificio se non artificialmente, attraverso il puntello di un'occupazione straniera, dell'autorità militare. E così, attraverso lo Stato Pontificio, si veniva a colpire l'Austria. Ecco tutto il gioco delle argomentazioni votate. Argomentazioni abilissime che però rimasero sterili. Il potenziario austriaco si indignò e fece naturalmente, come poteva fare, orecchio da mercante, e il plenipotenziario invece inglese prestò un certo appoggio a Cavour, ma Cavour lì fece una piccola, un piccolo bluff ad uso dei suoi amici più avanzati, soprattutto dei democratici piemontesi. Disse che aveva parlato a Clarendon evocando lo spettro di una guerra a coltello, war to the knife, nel caso di un fallimento dell'offensiva diplomatica a favore della causa italiana. Quindi disse a Clarendon, ricordatevi che noi siamo decisi a ricorrere ai mezzi eroici, diciamo. Se voi non risolvete questa questione italiana, che è una questione che l'Europa non può non risolvere, pena la deteriorazione continua di questo e lo scivolamento in uno stato dell'Italia intera in uno stato di anarchia, soprattutto della zona naturalmente centro-settentrionale. Clarendon, secondo l'affermazione di Cavour, esistono delle lettere che furono anche pubblicate molto presto dopo la sua morte, avrebbe detto che l'Inghilterra era disposta a appoggiare l'Italia in ogni mezzo, quasi diciamo anche militarmente, ma quando queste lettere furono pubblicate, questo è ricordato nelle memorie di Minghetti, Clarendon si alzò, credo proprio anche alla Camera dei Comuni, a smentire queste sue affermazioni. E Minghetti aggiusta le cose dicendo che Cavour scambiò i suoi desideri con delle promesse concrete. La realtà forse è un po' diversa. Cavour era un grande giocatore, insomma, è un aspetto del suo liberalismo. È un Schauspieler, aveva evidentemente convenienza a far credere che anche l'Inghilterra poteva intervenire a suo favore, ed era questo un gioco di bilanciamento per non scivolare troppo nel unico verso un appoggio sempre soltanto francese, vero? Sempre soltanto napoleonico. Ecco, questo mi pare. Comunque, sta di fatto che a Parigi, in questo congresso che non credo, per quanto sia stato detto da un grande storico italiano come Salvatorelli, non credo possa essere considerato come la fine della Santa Alleanza, bensì mi pare che sia piuttosto da considerare come una continuazione della cosiddetta politica dei congressi, che era appunto cominciata a Vienna, in questo congresso di Parigi Cavour riuscì a agitare questi problemi senza ambagi, con un certo appoggio morale molto forte del plenipotenziario inglese Clarendon, che del resto era molto più sostenuto dall'opinione protestante inglese di quanto Napoleone fosse sostenuto dall'opinione francese per questa presentazione, vero, in chiave piuttosto antiteocratica e antitemporalistica. E presentò questi problemi, questo problema italiano, nel quadro di una revisione non eversiva del diritto pubblico europeo, di cui gli stessi trattati del 15 erano stati espressioni. In fondo il vanto della diplomazia europea, della classica diplomazia, come ha scritto un storico tedesco, era stato quello di instaurare un ordine europeo, un diritto pubblico, di fondare le basi della vita politica europea su di un diritto pubblico regolare contro l'anarchia, vero, dell'ancien regime che aveva portato alle spartizioni, quindi anche equilibrio europeo, eccetera, eccetera. Però che tutto questo non escluda il famoso struggle per il primato di cui parla, struggle for mastery in Europe, di cui parla il storico inglese Taylor, è ovvio, insomma, si parla sempre di equilibrio, si parla di ordine europeo, ma Napoleone mira al primato in quel momento e dopo sarà Bismarck che farà il suo gioco, eccetera, eccetera. Insomma, sta di fatto che Cavour pareva suggerire semplicemente una migliore applicazione dei grandi principi gettati come un germe nei trattati e nei congressi precedenti per migliorare la situazione italiana. Lo spettro di una guerra era soltanto agitato così, come nello sfondo, per sia ad uso interno, per far capire ai patrioti più arrabbiati e agli patrioti italiani più arrabbiati, più esaltati, che era disposto a ricorrere ai mezzi eroici, e sia anche per far capire che se la diplomazia restava sorda, allora le cose potevano andare peggio. Direi, con Romeo, la politica di Cavour, in questo sono d'accordo con Romeo e tante altre cose, l'ho citato infatti come primo nella bibliografia, la politica di Cavour restava condizionata dalla rivoluzione conservatrice di Napoleone III. L'espressione rivoluzione conservatrice mi pare un'espressione felice, non so neanche più a memoria se Romeo l'ha inventata lui o se l'ha trovata in qualche, nella pubblicistica francese, nella storiografia francese, ma mi pare un'espressione efficace. E certamente bisogna ricordare però che egli si legava a questa rivoluzione conservatrice, senz'altro, perché in fondo era un liberale conservatore, l'aggettivo gli sta bene, ma non era legato al punto da impedire, da precludersi lo sviluppo all'interno dello Stato di quella dialettica parlamentare che era quasi soffocata nella Francia bonapartista. Quindi questa è sempre una netta differenza. Non è un caso che, spostandosi sulla scena internazionale, Cavour partisse nel 1956 dalla questione romana, era da un aspetto della questione romana. Nell'ultracattolico Piemonte, che aveva delle tradizioni cattoliche molto radicate, la questione romana si era presentata da tempo, se così mi è lecito dire, come un problema di politica interna. E direi proprio la caratterizzazione del liberalismo di Cavour era di aver lottato, una principale caratterizzazione, è quello di aver lottato per arrivare a una laicizzazione dello Stato. E certamente anche direi che ab origine egli aveva saputo affrontare tutta questa serie di problemi che comportava la laicizzazione con una serenità che per molto tempo lo distinse dai democratici anche temperati di centro-sinistra, coi quali per ragioni tattiche finì per fare il cosiddetto connubio, cioè il matrimonio. Il connubio è uno scherzo ironico di un suo avversario, la parola connubio, si riferisce soprattutto al suo legame con Rattazzi. In un discorso del 28 dicembre del 1952, Cavour appunto aveva colto in contraddizione un democratico più avanzato però di Rattazzi, che si chiamava Proferio, ed era un uomo abilissimo come oratore parlamentare, l'aveva colto in contraddizione dicendogli, facendogli notare che per provare che i vescovi avevano torto combattendo la libertà di stampa, non bisognava proporre di far loro processi di stampa, o tantomeno sequestrare i loro beni. Aveva notato, ed è un rilievo che ci ricorda proprio certe tesi del Tocqueville, che i paesi dove il governo civile ha incontrato maggiori opposizioni per parte del clero sono quelli dove non vi sono né mense sarebbe la dotazione dei vescovi, vero? Né prebende, cioè dove il clero non ha redditi autonomi. E molto abilmente, efficacemente, come spesso sapeva fare, evocava a tal proposito l'esempio dell'Irlanda, dove il clero era coi ribelli, diciamo così, proprio perché era povero come poveri erano gli oppressi irlandesi, ed era spogliato di ogni bene, perché i beni ecclesiastici erano in mano al clero protestante dei dominatori inglesi. Nelle strette, che chiamerò così, delle polemiche sopravvenute negli anni successivi, soprattutto tra 1854-55, la crisi calabiana, la legge dei conventi, Cavour guadagnò, e ne aveva bisogno, dei consensi nelle file dei democratici più moderati attraverso una politica ecclesiastica piuttosto dura. Politica ecclesiastica che assunse, come nota Iemolo, un colore giuseppinistico, e questo non ho bisogno di spiegarlo fra dotti, fra amici tedeschi e fra dotti colleghi che hanno studiato queste cose. Ma nelle elezioni del 57 Cavour pagò lo scotto di questo atteggiamento che consentì alle forze clericali di giocare sul cosiddetto paese reale, cioè insomma su quella maggioranza che non poteva votare ma che poteva influire, contro il paese legale. Non si sarebbe salvato se non avesse trovato allora solidale il sovrano. E cosa interessante, perché io voglio parlare dell'ultimo Cavour, questi sono solo solo il preambolo, cosa interessante, avrebbe ancora ricordato questo aiuto del sovrano per non essere, che aveva avuto dal sovrano per non essere sopraffatto dai clericali, in una lettera del 14 dicembre del 60. Questo fatto ci induce a riflettere sulla ibrida base del gioco politico di Cavour, del liberalismo, se volete, di Cavour. E ci induce anche a delle riflessioni su alcune costanti del liberalismo cavuriano, che appare, bisogna dirlo però, impastato di un humus empirico e appare quasi indefinibile dottrinalmente. Si potrebbe tutt'al più, per volere fare un po' da filosofo, forse sono influenzato dal mio vicino di destra, evocare il regolo lesbio, no, di Aristotele, mi pare, che è qualcosa che si piega a tutte alla rugosa realtà per misurarla e anche per migliorarla, se volete. Anzi, Ulrich ha ragione, sì, dove in uno di questi in questo scritto che citavo prima parla del, insomma, essenzialmente si trattava di un progetto di modernizzazione, perché il liberalismo di Cavour contiene soprattutto un progetto di modernizzazione dello Stato e della società civile, ma per arrivare a realizzare questo progetto bisognava passare attraverso dei tortuosi vicoli e abbassare la testa quando le porte erano basse, ecco, e Cavour aveva questa estrema disponibilità a abbassare magari la testa, ma rialzandola poi appena dopo l'ostacolo. E naturalmente che tortuosa fosse la sua via, questo piaceva agli uomini intransigenti, agli idealisti, eccetera, eccetera. Resta vero che egli si sforzò costantemente, questa è una costante del suo liberalismo, di armonizzare tre elementi su cui si fondò non soltanto la sua azione di emergenza, che in fondo comincia nel 56, appunto, e soprattutto si accentua negli anni drammatici della prima guerra indipendente dopo. Tre elementi dunque sui quali non si fondò soltanto questa, un'azione di emergenza, ma quanto restò vivo delle sue grandi speranze ed esigenze ideali giovanili, che erano strettamente liberali. E questi tre elementi io li definirei così. In primo luogo metterei il principio monarchico, e ho accennato appunto adesso all'appoggio che il sovrano gli aveva dato in quella certa circostanza. Il principio monarchico che valeva per lui, come per lui liberale conservatore, come contrappeso di fronte a ogni prepotere assembleare, o se volete di ogni prepotere del potere legislativo. Cavour aveva una paura terribile delle costituenti, però non è solo il terrore del terrore, ma il terrore delle convenzioni rivoluzionarie, no? E questo si applica anche, per quanto poi si abbia attenuato lì la sua posizione, alla piccola rivoluzione di Ginevra, dove i suoi parenti ed amici Dolarive erano membri di una piccola oligarchia locale, molto illuminata, erano stati buttati giù e un po' messi al margine da una piccola costituente. In sostanza si trattava di una politica in cui l'esecutivo doveva essere sostenuto bene, anche basandosi su una forza tradizionale, perché non dimentichiamo, il Piemonte era Piemonte, cioè la monarchia non era soltanto un istituto così freddamente, un'istituzione giuridica, una cosa astratta, era qualcosa di concreto, era un sentimento, insomma, era una cosa. Nel 48 c'è una frase di Cavour: per fortuna che la monarchica Torino ci salva, il sentimento monarchico di Torino ci salva da certe follie, eccetera, eccetera. Questo è basarsi, cioè, su un sentimento, oltre che su di un principio. Comunque, questo per spiegare l'importanza dell'elemento monarchico nel gioco politico di Cavour. E naturalmente l'elemento monarchico, faccio notare, giocava sia in senso antirivoluzionario che in senso antireazionario, perché ho citato poco fa l'aiuto che gli ha porto contro il clericalismo reazionario. Il secondo elemento nel suo gioco politico è certamente l'aspirazione all'indipendenza e alla costituzione in Stato di una nazionalità come l'italiana, di cui era difficile sottovalutare la debole e variegata struttura. In un brano molto bello del suo diario giovanile, egli ricorda Rousseau e dice che Rousseau ha capito che perché un uomo senza abbia pieno il senso della propria dignità deve anche sentirsi parte di un popolo libero. È uno dei pochi riferimenti così ideologici del diario giovanile che possono essere evocati a questo proposito. Naturalmente, quando poi si trattava di definire questa nazionalità italiana, l'empirico Cavour non si trova molto a suo agio. Possiamo capire la sua posizione soltanto da qualche reazione. E per esempio io ricorrerò qui fra breve all'antologia di del silenzioso Pier Giorgio Camaiani, che è fra noi pur sempre tacendo, che ha pubblicato, proprio di cui è uscito in questi giorni, un'antologia sulla rivoluzione moderata. E farò vedere come Cavour, reagendo a un discorso di Rattazzi molto demagogico sull'italianità di Nizza, definisca in modo assai, anche questa volta, empirico l'idea di nazionalità e salvando così la sua azione per liquidare le province transalpine e in fondo liquidare lo stato dinastico per spostare in Savoia, per fare della monarchia sabauda una monarchia nazionale, di fare dello stato sabaudo uno stato nazionale e non più dinastico. Quindi direi che era ineccepibile anche in linea di principio, ma lui non ricorre tanto ai principi. Vedrete se ci arriviamo, come empirico anche tutto il suo apprezzamento. Vorrei notare che in fondo, e qui per fare il cattivo, l'Italia non che combatteva contro questo, aveva come bersaglio, anzi utilissimo bersaglio, non so, senza Austria, l'Austria anche per quello, se non ci fosse stata bisognava crearla, se non ci fosse stata l'Austria non so come si sarebbe tenuto insieme questo coacervo di diversi patriottismi italiani. Ma gli italiani non si accorgevano che erano in fondo uno Stato plurinazionale, e se facevano uno Stato nazionale, facevano uno Stato plurinazionale, perché io sono un fermo assertore dell'esistenza di subnazionalità italiane abbastanza pronunciate per avere una loro individualità. D'altra parte, sono d'accordo con Cavour quando polemizzava con grande economista siciliano Francesco Ferrara, che gli scriveva: stai attento, stia attento, i siciliani non vogliono la nazionalità come fine, lo vogliono solo come mezzo, perché vogliono soltanto separarsi da Napoli, questo è da tener conto, quindi se volete avere la Sicilia con voi dovete non annetterla, ma riconoscerle quello che oggi si chiamerebbe uno statuto speciale. Ma Cavour, io vengo anche da una regione, come portavoce di una regione a statuto speciale, perché vengo dalla Val d'Aosta, ritengo che dal punto di vista del gioco politico, se si concedevano allora degli statuti speciali, l'unificazione non riusciva. Poteva forse essere meglio, si può discutere a lungo su questo, ma certamente non riusciva. L'ultimo elemento del gioco politico di Cavour è l'adesione che chiamerei utilitaria all'ideologia bonapartistica. Ideologia che entro certi limiti era promotrice delle libere nazionalità, almeno come dicono i francesi, il se targhe Napoleone III di questo idealismo, che poi ce l'avesse sincero, è ancora da discutere. Ideologia poi, promozione molto pericolosa, in quanto poteva tradursi in un'opprimente tutela, e questo è l'eterno rimprovero che muovono a Cavour gli intransigenti patrioti. Mazzini, famosa lettera aperta su questa corruttrice alleanza, Garibaldi in altri termini, e in un modo demagogico e ambiguo Rattazzi, che poi viceversa, quando si trattava di fare della politica spicciola, era pronto a abbassare la coda di fronte al grosso leone Napoleone. Negli anni dell'unificazione Cavour si consumò, a mio modo di vedere, si consumò letteralmente nel terribile sforzo di tenere assieme quei tre elementi così contrastanti che ho elencato, è uno schema naturalmente, e che erano per di più, si incarnavano per di più in personalità così complesse, così ambigue. Parlo sia di Vittorio Emanuele per il principio monarchico, per l'elemento monarchico, che di Napoleone III per l'elemento bonapartistico, cioè gli davano con le loro contraddizioni, lo mettevano in continua angoscia. Insomma, il parto di cui egli voleva essere levatrice, ma purtroppo era anche partoriente lui, il parto fu terribile, fu un parto che richiese, sembra quasi, scusate, un gioco di parole, un taglio cesareo, se penso che era un Cesare che ci metteva di mezzo, e che finì per ammazzare la partoriente, se la partoriente fosse stata da individuarsi in Cavour. Comunque, per essere sempre più chiaro e andare avanti a base di schemi, come forse è l'obbligo in una relazione che vorrebbe essere breve, per ricorrere di nuovo a uno schema, io distinguerei tre fasi nella politica di Luigi Bonaparte, di Luigi Napoleone, come lo chiamavano i suoi avversari, di fronte all'Italia. Nella politica, tre fasi della politica italiana di Luigi Napoleone, fra il 1858, perché ridi? No, stavo commentando la bellezza della guerra. No, via, ma scherziamo. No, credevo che mi pigliasse in giro per il mio paragone sulla partoriente, che era un po' folle, non sta scritto. Dunque, la prima fase corre da Plombières alla campagna militare del 59 inclusa, e pare una fase relativamente felice, una fase di promesse mantenute, di altisonanti programmi in cui si parla di Italia liberata dalle Alpi all'Adriatico, state attenti all'espressione, perché vuol dire insomma, no, la padana, ma però si dice Italia, appunto, sì. Piacerebbe a me. Però non c'è una fusione autentica di forze ideali tra questi alleati, e ci sono dei latenti e crescenti sospetti reciproci. Mettiamoci anche dalla parte di Napoleone, tanto per non fare immaginiani. Napoleone, o Luigi Napoleone, constatava che l'esercito piemontese era molto più smilzo di quello che era stato detto, perché si era parlato di 100.000 uomini, e Vittorio Emanuele usava fare lo spaccone e arrotondare sempre le cifre, e viceversa, era rimasto in fondo, come ha detto anche Pieri, che è lo specialista della storia militare del Risorgimento, era rimasto un esercito difensivo, un esercito di caserma, mi pare che usino dire anche i tecnici, non un esercito aggressivo, non un esercito napoleonico, appunto, rivelava una scarsa capacità organizzativa. Però, se si va al fondo delle cose, la scarsa capacità organizzativa era provocata dall'enorme imperizia, ingenuità, incapacità di Vittorio Emanuele. al quale piacevano moltissimo dei generali aulici come il Della Rocca che gli stava accanto, mentre gli dava maledettamente noia la Marmora, perché gli voleva dare dei consigli militari e anche magari buoni. Pare che abbia salvato la situazione a San Martino, in ultimo nel tardo pomeriggio. Mentre, non so, altre forme di incapacità organizzativa, ne citerò una sola perché è molto divertente: quando si arrivò sotto le famose fortezze austriache del Quadrilatero, Peschiera, Mantova, eccetera, il parco d'assedio che avevano i piemontesi, quello c'era, non era per nulla arrivato. Vabbè che c'era stato le famose piogge che avevano anche aiutato, ma insomma, certo che... Dunque, Napoleone aveva ragione di lamentarsi. Però c'era un'altra cosa di cui Napoleone si lamentava, e qui contraddittoriamente. A Napoleone dava molta noia che accanto all'azione militare si sviluppasse tutta un'azione politica, si sviluppasse un movimento nazionale che egli non poteva controllare. Questo movimento nazionale si sviluppò soprattutto in quella che allora venne curiosamente chiamata l'Italia centrale, in realtà tutte le carteggi dell'epoca. In realtà era l'Emilia, l'attuale Emilia, allora composta di ducati, legazioni, eccetera, legazioni pontificie, eccetera, e la Toscana. I moderati toscani, quelli che simpatizzavano per Cavour e per il Piemonte, in realtà non avevano pensato che ad una azione di stimolo e di pressione sul Granduca, che era austriaco, ma era anche un discendente di una dinastia riformatrice, era un discendente di Leopoldo di Pietro Leopoldo e di Maria Teresa, insomma, di tutta una dinastia che aveva delle nobilissime tradizioni, e nel 48 in fondo aveva partecipato alla guerra regia, quindi c'era ancora questo ideale di poterlo tirare dalla parte buona, nazionalizzarlo, se così si può dire. Però Cavour, all'insaputa dell'inviato piemontese a Firenze, che si chiamava Boncompagni e che agiva d'accordo con la destra toscana per influenzare il Granduca, Cavour, all'insaputa di queste forze, diciamo, legalitarie, giocava anche, e qui vedete che non era del tutto un bluff, una sparata, quella sua frase, quel discorso che aveva fatto a Clarendon, giocava anche sui patrioti più avanzati, e precisamente sul gruppo di La Farina, la cosiddetta società nazionale. E come è divertente che come Boncompagni, anche per definire la posizione di Cavour, come Boncompagni, che cospirava in fondo con la destra toscana per premere sul Granduca, ignorava questo gioco di Cavour, così Cavour a sua volta ignorava che i suoi complici per un'azione che avrebbe rovesciato il trono del Granduca, ignorava che partecipassero dei Mazziniani a questo gioco. Questi Mazziniani si chiamavano Dolfi e Cironi, tanto per farvi due nomi, e, cosa caratteristica, erano d'accordo anche con un aristocratico che si chiamava il marchese Bartolomei. Io vorrei sottolineare a questo punto una cosa che mi pare rilevante. Si parla tanto di rivoluzione borghese, eccetera, eccetera. Ora, va bene che molti di questi aristocratici avevano un comportamento borghese, Cavour per primo. Però ho trovato pure Ulrich che dà un dato molto interessante in quel titolo. Nel personale amministrativo del periodo della destra, il 43%, mi è rimasto impresso, era di aristocratici. E in generale, se voi fate una piccola lista di nomi, noi dobbiamo un po' studiare questa classe politica, no? E questo è l'interesse della realtà di Cavour, capire? Se noi facciamo una piccola tabella di massa, vediamo che c'era un mucchio di questi aristocratici liberali con Juicio, come direbbero gli spagnoli, ma liberali, i quali conducono il gioco, diciamo, e paradossalmente persino fra questi uomini del Partito d'Azione, perché così si può chiamare, no? toscano del partito Lafarignano, che era poi una frazione del grande partito d'azione buttato su da Mazzini. Da Mazzini è una frazione deviazionista più moderata. Fra questi c'è sì il popolano Dolfi, ma c'è anche il marchese Bartolomeo. E si verifica, vorrei dire, quello che nel periodo napoleonico, e quindi ecco che il bonapartismo ha anche un suo volto positivo, si era chiamato, per qualcuno di voi che sia interessato al studio del periodo napoleonico, l'amalgam. L'amalgam era stato il sogno di Napoleone per stabilizzare la società dopo le grandi scosse rivoluzionarie, cioè avvicinare, vabbè, il popolo forse non se ne lo lasciava un po' fuori, il popolo, ma avvicinare quello che sono gli honoratior, no? È stato detto anche nel dimmi fare lì, gli honoratior, gli ottimati, si potrebbe dire, agli uomini della cultura, insomma, aristocratici e borghesi amalgamati in un'azione comune. Questo mi pare il sugo di questa battaglia dal punto di vista sociale per la fondazione di uno Stato nazionale italiano. Passare attraverso una sorta di amalgama. La Toscana, la liberazione della Toscana fu una cosa paradossale, quasi caricaturale. Avvenne in 4 ore precisamente, e come disse spiritosamente un inviato inglese, non fu rotto un vetro. E ancora più spiritosamente, il Ricasoli racconta in una sua lettera, dice: il popolo ci andò come a teatro e ritornò tranquillo a casa. Guardate che dalla fortezza del Belvedere, un po' come delle fortezze, si sarebbe potuto sparare su Firenze, se conoscete quella bellissima fortezza, ma il Granduca era mite e i soldati non si sognavano di sparare, il popolo lo sapeva benissimo. Il Granduca partì avendo seduto, come si dice, a cassetta, no, vicino sulla carrozza, un del partito avanzato che garantiva per lui che nessuno gli avrebbe sparato, e ebbe anche la sorte di piacere a tutti, perché appena arrivò a Mantova credo che si prese un rimbrotto spaventoso da parte del resto della sua famiglia, perché non volle infierire, non volle abdicare, disse: beh, io farò valere il mio diritto. Quindi una rivoluzione di cui Cavour poté dire: questa è una splendida cosa a nostro favore. Ma era mica tanto splendida, perché immediatamente ne nacquero degli screzi, in quanto Napoleone si vedeva sfuggire di mano un movimento che credeva di controllare e che avrebbe potuto controllare finché in una zona vicina, accessibile alle sue forze armate. E proclama che lanciò il giorno dopo Magenta, il giorno dell'ingresso di Milano, c'è un eco di queste preoccupazioni, perché disse: gli italiani devono diventare tutti soldati prima, per se vogliono diventare dei cittadini di uno Stato libero. È un po' uno sfondo reazionario. Diventare tutti soldati vuol dire, naturalmente sotto le bandiere di Vittorio Emanuele, vuol dire diventare tutti passibili di una disciplina militare e dei tribunali militari, per essere cattivi, e non diventare degli insorti e non fare un gioco troppo autonomo. Ecco, questo non solo dunque metteva un elemento così di dissenso fra la linea del Napoleone del 59 e la linea nazionale, che nel primo schema che vi ho fatto, il numero 2, di Cavour e degli italiani, ma poi provocò addirittura, siccome Cavour era molto permaloso, un urto fra Cavour e colui che era il suo, diciamo, un po' il rappresentante della frazione più italiana, filo italiana della corte napoleonica, il famoso Plon Plon, cioè il principe Gerolamo Napoleone, soprannominato Plon Plon, il quale aveva sposato la figlia di Vittorio Emanuele, matrimonio di ragione di Stato, nell'avvenuto poco prima dell'inizio della guerra. Siccome Plon Plon accettò di andare in Toscana con un corpo d'esercito francese, Cavour non gli nascose il suo disappunto, e questo naturalmente si dimostra che non era poi quel famoso diplomatico realista. Inoltre nacque uno scherzo fra Cavour e i toscani, perché proprio il maggiore amico di Ricasoli non si peritò di andare ad Alessandria, e dove c'era il quartier generale in quel momento, e di dire: per carità, mandateci dei soldati. E Cavour disse: questo è un vigliacco, hanno avuto paura. E in fondo, e questo è sottolineato nell'antologia di Camaiani, c'è un po' la rivoluzione della paura. I moderati fanno sempre la rivoluzione della paura, cioè ricorrono a, vogliono sì trasformare le cose, ma perché sia salvo l'ordine a loro favore, l'ordine e la proprietà. Dunque, doppio screzio fra la linea napoleonica e la linea, e screzio fra la linea cavuriana e la linea, diciamo, della borghesia toscana, e che Salvagnoli rappresenta davvero così. Seconda fase della politica napoleonica in Italia. Battaglie vittoriose, ma vittorie in fondo inconcludenti, come sottolineano gli studiosi di queste cose, perché combattute ai piedi delle fortezze austriache, ma senza poterle espugnare, poi con l'incognita di una crescente solidarietà diplomatica europea e nazional, non solo diplomatica, ma anche nazional politica tedesca a favore dell'Austria. Quindi, per molte buone ragioni, direi, Napoleone III ci pensò sopra, e poi anche per la ragione di quel dissenso col movimento, di quella paura di vedersi sfuggire di mano il movimento nazionale italiano e di vederlo diventare rivoluzionario e troppo autonomo, Napoleone fa un armistizio che poi non è altro che il preambolo di un vero accordo, di un trattato di pace con Francesco Giuseppe, col giovanissimo imperatore Francesco Giuseppe, trattato di pace che viene firmato poi a Zurigo nell'autunno. Quello però che è notevole è che questo avvicinamento fra i due imperatori avviene in chiave molto conservatrice. Direi quasi è un ritorno più indietro, a posizioni più arretrate rispetto a quelle del congresso di Parigi, dove si era ammesso che si parlasse a favore dell'Italia. Perché? Cioè, si prospetta come progetto una confederazione italiana con una presidenza papale, addio quindi battaglia antiteocratica, e si prospetta la presenza dell'Austria in quella federazione come proprietaria, diciamo, perché uno Stato non era certo uno Stato costituzionale, ancora basato sui vecchi principi, come proprietaria del Veneto. L'Austria, è stato detto da un scrittore americano, Thayer, trovava legalizzata la sua presenza in Italia, che prima in fondo per certi aspetti, occupazione delle Romagne, era così una cosa discutibile, ancora più legalizzata, che c'era un trattato nuovo, rinfrescava i suoi titoli di presenza in Italia. C'era un solo punto debole, diciamo, in questa restaurazione dei diritti antichi. Non era ammesso che i granduchi, duchi e granduchi spodestati ritornassero con la forza, e cioè l'Austria non doveva intervenire a loro favore, dovevano essere chiamati, diciamo, doveva essere provato che le popolazioni li desideravano, e questo naturalmente era ancora un piede messo nella politica, nella ideologia revisionista. Una concessione all'ideologia revisionista che il Bonaparte, l'epigono di Napoleone, del primo Bonaparte, rappresentava. Certamente fu una formidabile delusione per i patrioti italiani, però Vittorio Emanuele dimostrò in quella circostanza un formidabile buonsenso, incassando, ingoiando, mentre Cavour fece, non so se a scopo tattico, ma forse anche perché era un emotivo, una scena furiosa, dando naturalmente le sue dimissioni, e insultando tutto e tutti, insultando il proprio sovrano, insultando l'amico principe Napoleone e compagnia bella, e ricevendosi naturalmente tra l'altro creando poi una certa tensione. Ma nel ritirarsi e nel divenire capro espiatorio si trovò in fondo avvantaggiato, e per questo dico, non è detto che quella crisi di nervi, che rispecchia però anche il suo carattere emotivo, che quella vera crisi di nervi famosa di Villa Franca, o di quella certa villa dove avvenne l'incontro, Villa Melchiorre, dove avvennero questi incontri, non è detto che non avesse anche uno scopo, uno sfondo tattico. Certamente, Cavour, Napoleone non apparve da quel momento, dopo questa specie di ritirata, di ripiegamento su posizioni così arretrate, quasi filo austriaca in sostanza, di equilibrio se volete, e di spartizione dell'Europa su basi tipo Santa Alleanza, sì. Napoleone non apparve più ai patrioti italiani come, lasciatemelo dire in latino, poiché c'è Roger qui che apprezzerà questo latino, non apparve più come un Deus Omnipotens, tutt'al più apparve come un Deus Ex Machina, un po' ridicolo anche, perché da quel momento cominciò a oscillare tra posizioni così diverse che Hudson, che era molto spiritoso e che era l'inviato inglese più amico di Cavour e di Ricardoli e della causa italiana in genere, disse: Napoleone III cambia di idea, cambia di posizione rispetto all'Italia una volta al giorno come si cambia di camicia, perché dice, non si capisce più niente, sono veramente da un giorno all'altro. E Cavour, che si ritirava, si ritirò a Leri, non aveva mancato, prima di ritirarsi, prima di dimettersi, di mandare qualche consiglio e qualche cosa di resistenza, ma non ce n'era bisogno. Farini, per esempio, altro suo grande amico emiliano, era di Ravenna, di Russi vicino a Ravenna, non aveva bisogno di essere consigliato a resistere, a tener testa, a non spaventarsi, a non aver paura. Quindi nacquero governi provvisori, assemblee nazionali, lega militare, tutto quello che potete immaginare, nacquero da quel momento con un senso di stacco, autonomamente, ecco, finalmente. E qui c'è un'espressione molto felice, trovo, del saggio di Traetschke su Cavour, dove dice Traetschke che dopo Villa Franca il motto nazionale italiano si distacca dal patronato del governo piemontese e passa al popolo. Ecco, questo però è eccessivo dire passa al popolo, e ho già detto quello che ho detto sull'amalgam, che effettivamente è spinto in quel momento a una collaborazione addirittura, almeno in Toscana, fra aristocratici e mazziniani, addirittura Dolfi e in certi casi. Quello che ho detto, dico, su questo amalgam, favorito dalla gravità delle circostanze, vale a capire che passa non proprio al popolo, ma a una piuttosto ristretta elite, piuttosto eterogenea, non tanto omogenea, questo voglio sottolineare, che non è ancora così spaccata come avverrà più tardi fra democratici e cavuriani, fra garibaldisti e cavuristi, se volete un'espressione un po' scherzosa. Faccio notare che parecchi di questi patriotti giocano, come si suol dire, su due registri. Non so, ho citato il caso di Bartolomei. Bartolomei andava da Cavour, lo vedeva addirittura, lo incontrava, ma non gli stava a dire, guarda che io ho due Mazziniani in tasca, come si dice, ho due pistole pronte per sparare. Non so, Michele Amari, grande storico, c'è una bellissima voce di Romeo su Michele Amari, che era stato un separatista siciliano, appunto aveva fatto quella famosa, aveva preso quella posizione di lotta di tutti i siciliani contro il dominio borbonico napoletano fino agli anni 40, diventa filo cavuriano. Però nello stesso tempo, come altri membri della stessa famiglia Amari, che però non erano parenti sempre tra di loro, stavano a Genova o a Firenze a raccogliere, ancora nel 60, ancora ai primi del 60, a raccogliere danari e a favorire l'organizzazione di una spedizione come quella garibaldina. Cioè una tipica espressione di un movimento d'azione democratico e rivoluzionario, se vogliamo chiamarlo con questo nome, quanto le rivoluzioni nazionali meritano ancora questo nome. Ecco, quindi non c'è ancora questa spaccatura. Non so, ritornano anche sulla scena, al centro della scena, delle figure di grandi uomini d'avventura, insomma, uomini che hanno avuto un passato avventuroso, in primo luogo Garibaldi, no? L'eroe dei due mondi, si suol dire quasi scherzosamente ormai in Italia, perché aveva combattuto per questi stati della liberazione di certe zone dell'America del Sud e contro il dominio spagnolo. Ma dopo, non so, dopo Garibaldi c'è anche Fanti, che aveva combattuto per la libertà in Spagna. Ecco, Fanti diventa generale piemontese, ma Minghetti lo strappa, va apposta a Brescia, lo strappa all'esercito piemontese, ha avuto il coraggio di darle dimissioni, perdendo forse l'anzianità, e di diventare il capo dell'esercito della Lega degli Stati della cosiddetta Italia Centrale. Manfredo Fanti litigherà poi terribilmente con Garibaldi, ma è un personaggio ibrido, diciamo, a cavallo fra le due cose. Tanto per darvi un'idea della complessità di questo momento. Vi sono anche, mi permetterete, delle cose divertenti da citare a questo proposito, del diario del segretario di Ricasoli su la forza che acquistano certi personaggi, in questo caso Ricasoli, per avere il coraggio di sostenere forte azione di resistenza di fronte alle pretese non tanto di Napoleone in persona, perché questa è la sua ambiguità, stava sempre un po' appartato e faceva fare ai suoi, ma anche la sua debolezza dimostra questo, faceva fare ai suoi diplomatici, in questo caso, in questo momento regnava Valevski, che era molto sfavorevole alla politica italiana di Napoleone. Ora, il primo novembre del 59, il segretario di Ricasoli scrive: né il trattato di pace, era stato firmato allora a Zurigo, né la lettera dell'imperatore Vittorio Emanuele scuotono la fermezza del barone e degli altri unionisti, cioè non autonomisti, vorrebbero unirsi a Piemonte. Chiunque parla con lui, con Ricasoli, ne esce stordito. Pare che abbia più potere dell'Europa coalizzata. Diceva l'incaricato di Francia, evidentemente Tabarini l'aveva sentito, l'incaricato, cioè il ministro francese a Firenze, l'inviato francese a Firenze, sacre Dieu che la Chiron. L'opinione del paese, peraltro, comincia a pencolare e il toscanismo rinasce. Vedete, questa pluralità delle Italie esisteva. Ma il Ricasoli è duro, per la ragione che tutti i partiti gli sembrano più pericolosi dell'Unione. Questa espressione anche fa vedere il lato un po' conservatore, più pericoloso, assicurato però anche nazionale, più pericolosi per la causa nazionale, dell'ordine e della nazione, assicurato dall'intervento, cioè dalla famosa clausola che non si poteva considerare l'intervento austriaco a favore del Granduca, egli si crede più potente di Napoleone, il quale veramente, se non recita una commedia, come i suoi partigiani dicono, mi pare che perda il senno. E quindi, vedete, la svalutazione del Deus Omnipotens e qui il senso di una possibilità di indipendenza che cresce. Naturalmente poi Tabarrini non capisce la posizione, dice il Peste e Corna di Garibaldi, che fa il padrone nelle Romagne e fa e disfa senza rispetto né al general Fanti né ai governi della Lega. E quindi vedete che è un spirito di indipendenza molto fiero, ma molto di ordine. Bisogna che Garibaldi non operi da capitano di ventura, che non formi nuovi corpi di suo capriccio, che non si metta a fare il presidente dell'Associazione Nazionale Risorta, chiedendo ai municipi che diano da vivere alle famiglie dei volontari e di comprare 1 milione di fucili, il famoso milione di fucili che fu lanciato, sotto ispirazione anche mazziniana, per preparare la conquista del sud. Però Ricasoli non disdegnava dei contatti con Mazzini. Contatti epistolari, avrebbe voluto anche incontrarlo, ma proprio Tabarrini lo persuade, no, dice meglio non incontrarlo, non si sa mai, poi può anche inventarsene. E è curiosa la vicinanza fra il piano di Mazzini e il piano che fu poi seguito da Cavour. Questa è una cosa molto divertente. Dice Tabarrini, che è un attento lettore delle lettere inviate a Ricasoli, essendo il segretario, io ho letto questa lettera di Mazzini a Ricasoli, inclina a riconoscere l'unità monarchica di Vittorio Emanuele, che Mazzini aveva messo la Repubblica sotto, come dire, sotto il moggio in quel momento. Propone però di estendere la rivoluzione a Napoli. A Roselli e a Fabrizi e ad altri che non conosco, le lettere venivano lette col sistema del gabinetto nero nella segreteria di Ricasoli, ha scritto proponendo questo piano: unire le forze di Romagna, riprendere Perugia. Lì c'era stato il famoso fatto tragico delle stragi di Perugia. Riprendere Perugia e di là, con rapide marce, lasciando per ora da parte Roma, gettarsi negli Abruzzi e provocare la rivoluzione nel regno. Siamo nell'agosto del 59, un anno, un po' più di un anno dopo, Cavour farà proprio, senza forze volontarie, con l'esercito regolare, quel giro, lasciando da parte Roma per arrivare al regno, dove però la rivoluzione era già venuta, e questa era venuta grazie a Garibaldi e alla sua abilità e al suo prestigio. Mazzini assicura che la Sicilia insorgerà, e infatti la Sicilia insorse poi ai primi del 60, nella primavera del 60, così, ecco lo scopo però mazziniano, e qui c'è la divergenza tra le due frazioni del Partito Nazionale, così attraverso la liberazione della Sicilia e del Regno del Sud, la base delle operazioni per l'Italia centrale non sarà più né il Piemonte né la Lombardia, ma il Regno del Sud, come lo chiamo io sommariamente. Vuole che i capi militari tentino questo colpo ardito di loro moto, non sperando di indurvi i governi dittatoriali degli stati del centro. In realtà non era soltanto Mazzini, non guardava mai alla realtà militare, politica, diplomatica. Anche Garibaldi, come voi sapete, disprezzava profondamente la diplomazia. In realtà, se Garibaldi fu salvato, diciamo, allora e tenuto buono per riuscire poi il colpo in Sicilia, fu proprio grazie ai moderati, a Fanti, a Farini e a Vittorio Emanuele, a cui lo mandarono poi come pacco postale perché lo convincesse. Perché se no si sarebbe buttato, secondo l'idea, ma accettando l'idea mazziniana, nelle Marche, che non erano affatto insorte, e sarebbe successo di nuovo la storia delle stragi di Perugia, la quale storia delle stragi di Perugia sarebbe da raccontare, ma è troppo lungo, perché è un paradossale in gioco di equivoci. A questo punto, si può capire perché Cavour desiderasse di riprendere le redini e di ridare un carattere più organico o armonico al motto nazionale che, avendo scavalcato l'Appennino, rischiava, ed era bene, insomma, non è che lui se ne dispiacesse, rischiava di trovarsi di fronte a delle rischi mortali nel caso di un urto frontale insostenibile con gli dèi dell'Olimpo politico europeo. Cavour non disprezzava, come Garibaldi e come Mazzini, la diplomazia, anche se diceva, più tardi avrebbe detto, a Nigra, io non cerco il consenso dei diplomatici, a me non interessa di essere, adesso abbiamo di fronte l'eroe Garibaldi, lo scrive dopo la spedizione di Mille, ma io non voglio vincere Garibaldi, diciamo, per piacere a pochi diplomatici, voglio avere il consenso dell'opinione pubblica illuminata europea, che era poi l'opinione pubblica dei liberali europei. Questo è molto importante per definire il suo punto di vista. Inoltre Cavour capiva, già nel suo romitaggio di Leri, che nasceva un grande pericolo, la frammentazione dei centri di potere e di iniziativa. E questo, secondo me, spiega lo scivolamento progressivo verso quella politica già in nuce accentratrice, la politica cosiddetta delle annessioni, che è il lato negativo, in fondo, da un punto di vista liberale del suo metodo. Ecco, io credo che è già piuttosto avanti il tempo e quindi taglierò tutta una parte che spero che verrà trattata da Ruffilli sul residuo, quella che per me appare come residua simpatia di Cavour per il self-governance. Tolto di mezzo l'idea dei centri di potere separati, in fondo se ne parlava ieri, vero, con l'amico Wanderska, Bismarck è più liberale di Cavour, mi dicevi che Bismarck dalla lezione italiana trasse l'idea che non bisognava annettere, ingoiare queste cose, questi centri autonomi come, non so, il Regno di Baviera, era molto meglio di lasciarli in piedi e di lasciar vive queste cose, almeno vive sotto tutela, si capisce, eccetera. Ma però era una tattica più abile e forse anche in un certo senso più liberale. Ma l'Italia era molto più fragile. Insomma, dal punto di vista tattico, Cavour si trovava in una situazione molto più difficile di Bismarck, questo, che poi tra l'altro aveva vinto la guerra del 70 in un modo tale da creare una specie di sfondo eroico, di sfondo eccetera. Quindi, vabbè, questo è, adesso io non so se è bene che io legga invece subito l'ultima parte riguardante la questione romana, ultima fase della battaglia per la questione romana e la questione meridionale, che si intrecciano insieme, o se è meglio dare una piccola pausa, non so, se sono... Cosa per te? Posso forse adesso anche sintetizzare, ecco. Molto breve. Also eine ganz kurze Zusammenfassung, was Renz ausgegangen von dem Wort von Cavour als einem Tocqueville in Aktion und besonders hier hat er darauf hingewiesen, dass 1856 Cavour ja die italienische Frage auf dem Pariser Kongress gebracht hat im Zusammenhang mit der Frage der Legationen, das heißt der Romagna, der nördlichen Teile des Kirchenstaates, wobei hier bei ihm und vor allem bei Minghetti, der hier ja mit ihm zusammengearbeitet hat, das Ziel einer Säkularisierung des Kirchenstaates enthalten war, wobei man sehr geschickt auch auf gewisse Äußerungen Napoleons III. Aus dem Jahr 1849 schon hingewiesen hat. Außerdem gelang es gerade mit dieser Frage das Interesse und die Sympathie Englands während zu erringen, wobei Cavour auch das Drohmittel eines Kampfes bis aufs Messer und heroischer Mittel hier angewandt hat. Also er hat dann einen Rückgriff gemacht, wie sie auf die Frage, wie sehr die römische Frage und überhaupt das Verhältnis von Staat und Kirche ja für das katholische Piemont eine Frage gleichzeitig auf der Innenpolitik war und auf Cavours von Jemolo als josephinisch bezeichnete Kirchenpolitik der 50er Jahre verwiesen hat, wobei ihm hier die Unterstützung Vittorio Emanueles, also des Herrschers gegen die Klerikalen, geholfen hat, woran er sich auch noch später, was auch noch später gesagt hat und worauf er später noch hingewiesen hat. Hier zeigt sich ja gerade die Geschicklichkeit Cavours auch in der Frage einer Modernisierung durch einen Kampf gegen die Klerikalen. Cassarin hat vor allem die drei Prinzipien der Politik Cavours hier hervorgehoben. Zuerst das monarchische Prinzip, dass die einerseits ein Gegengewicht gegen den Druck von Volksversammlungen und auch von Parlamenten war, die er durchaus als notwendig anerkannt hat, deren Übergewicht er aber fürchtete. Hier ist natürlich die große alte monarchische piemontesische Tradition, das starke monarchische Gefühl der Piemontesen zu legen und dann auch eben die Erfahrung der Unterstützung gegen die Klerikale, gegen die Reaktion einerseits und gegen die Klerikale und den klerikalen Druck von Seiten, also das ist hier die Unterstützung, die ihm die Krone, das heißt der Monarch, zuteil werden ließ. Ein zweiter Pfeiler seiner Politik ist der Gedanke der Unabhängigkeit, der italienischen Unabhängigkeit gegenüber der Fremdherrschaft, hier also vor allem auch der Österreich. Hier gibt es also schon Zitate aus der Jugendzeit, wohin er auf Rousseau zurückgreift und sagt, nur ein wirklich freier Mensch muss Mitglied eines freien Volkes sein. In diesem Zusammenhang hat diese Seite der Nationalen, die nationale Seite, verweist Cassarin auch auf die Anthologie von Pier Giorgio Camaiani, La Rivoluzione Moderata. Sagt hier, auch in dieser Hinsicht für die italienische Nation, für das Werden einer italienischen Nation aus all diesen Nationen, man sprach ja damals noch von Nazione Toscana, Nazione Piemontese, Nazione Veneta und so weiter, Nazione Napoletana e Siciliana, ist die Existenz Österreichs geradezu als gemeinsamer Feind und als dire, diavolo della religione nazionale ist sozusagen eine Notwendigkeit, man könnte sagen, auch da fast das Österreich, wenn es nicht bestanden hätte, man es hätte erbinden müssen, für das Entstehen eines italienischen Nationalgefühls und dass dieses italienische Nationalgefühl, das Unabhängigkeits- und Nationalgefühl, kommt ja auch dann zum Ausdruck, dass er sich rühmt, ja da etwa die Dynastie, die piemontesische Dynastie, die eben eine savoyische, also eigentlich eine französische Dynastie gewesen, zu einer nationalen italienischen Dynastie gemacht haben. Als dritter Punkt, eine besonders schwierige Sache, die Hinwendung und die Verpflichtung zur bonapartistischen Ideologie, zu dieser Ideologie gegen die Ordnung des Wiener Kongresses, die Befreiung der Völker gegenüber der Konservative, gegenüber einer eben der Schlagwort der Heiligen Allianz. Eine Haltung, ein Erkennen, ein realpolitisches Erkennen der Bedeutung der Unterstützung durch Napoleon, die ihm dann ja von Seiten der Patrioten, der italienischen Patrioten, machen den Vorwurf der Servilität oder der Unterwerfung gegenüber Napoleon den Dritten gebracht hat. Und zusammenfassend meint Sören, dass Cavour sich verzehrt hat in diesen folgenden Jahren, also eigentlich sein Leben aufgeopfert hat, in der furchtbaren, schwierigen Aufgabe, diese drei Elemente, das monarchische Prinzip, das nationale und Unabhängigkeitsprinzip und das bonapartistische Prinzip, in einem Gleichgewicht zu halten, diese drei Elemente zu vereinigen und dass daraus dann eben die Geburt des italienischen Staates aus dieser das Bild des einer Geburt eben, wobei er selbst auch die, nämlich Cavour, die Gebärende war in dieser Hinsicht, und das ist ja eben einen Kaiserschnitt bedurfte. Der Kaiser ist also Napoleon, also die um Napoleon III. Handelt und er schließlich dabei sozusagen sein Leben auch aufgeopfert hat. Demgegenüber dann drei Phasen der Politik Napoleons. Die erste Phase von Frontier an bis hin in den Krieg hinein, die Zeit der Proklamationen, der Propaganda, der Erfolge auch, wobei dann eben eigentlich nach Solferino die Erkenntnis der Schwäche des piemontesischen Heeres, das viel schwächer war, als man ihm gesagt hat, die Zahlen sind da etwas nach oben aufgerundet worden. Auch gewisse andere Mengen, dass man zum Beispiel es waren 60.000 und nicht 100.000, ja, und dass man zum Beispiel eben zum Festungsviereck angekommen ist, aber der Belagerungspark war noch enden, gewisses hat geregnet, aber trotzdem, also gewisse Unzulänglichkeiten haben ihn hier verärgert. Dann auch die Sorge über die Nationalbewegung in Mittelitalien, das heißt also in der Toskana und in den Dukaten und in den Legationen, wo die Nationalbewegung sich so entwickelt hat, dass sie sowohl der Kontrolle Cavours wie auch vor allem der Kontrolle Napoleons III. Zu entgleiten drohte. Dieses sehr komplizierte Spiel ist hier dargelegt worden, wobei noch darauf hingewiesen wird von Kasserein, dass es sich bei diesen Kreisen keineswegs nur um bürgerliche Kreise gehandelt hat, dass hier eben jene Vereinigung von Bürgertum und Aristokratie eingetreten ist, die für die Risorgimento-Bewegung so bedeutend ist und die entspricht dem, was in der Zeit Napoleons des Dritten, also schon zu Beginn des Empire von Bonaparte als L'Amalgam bezeichnet wird, also die Vereinigung dieser Schichten. Wir könnten bei uns sagen, das ist das Viribus Unitis nach 48, es ist genau das dasselbe im Grunde genommen. Der leichte Sieg der so friedlichen Revolution in Florenz, che è andato a mangiare a colazione dopo 4 ore, come dice Camarani, e poi è andato a letto subito dopo per la siesta. Also diese Revolution, diese gemütliche Revolution, aber dieser Erfolg hat alles, hat eine Spannungen dann hervorgebracht, zunächst ein glänzender Erfolg, eine so friedliche Revolution, wo nicht ein Fenster zerbrochen wurde, andererseits aber dann Verärgerung Napoleons, Konflikt zwischen Cavour und Blanc-Blanc, der für den ja eigentlich ein mittelitalienisches Reich ausersehen war, der besonders auch im Zusammenhang mit vielleicht der nicht. Ja, aber er wollte es nicht. Er wollte es nicht, aber es ist davon ja gesprochen. Die Diplomatie wollte. Walensky. Und es gibt natürlich auch einen Konflikt dann zwischen Cavour und den Toskanern. Dann endet diese erste Phase sozusagen der Flitterwochen, könnte man sagen, zwischen Napoleon und der Nationalbewegung. Und die zweite ist eben gekennzeichnet durch Solferino, durch die Tatsache, dass Solferino eben ein unvollendeter Sieg war, durch den Waffenstillstand und Präliminarfrieden von Villafranca, wobei es zu einer Art, beinahe könnte man sagen, in der Theorie zu einer Art konservativen Einigung gekommen ist. Man ja den Plan hatte, eine italienische Föderation unter päpstlichem Vorsitz zu machen, wo Österreich als Besitzer des Venetiens ja nun auch sozusagen als legalisierter italienischer Staat auch von den europäischen Großmächten nicht nur, sondern auch von den Italienern anerkannt hätte hineinkommen sollen. Allerdings es gibt hier die eine Glaube, dass die, von der Rückkehr der Dynastien nur auf Wunsch des Volkes und praktisch die Rückkehr der Dynastien ja ausgeschlossen hat. Questo parlerò poi anche nell'intervento. Das Ganze führt zu einer furchtbaren Enttäuschung der Patrioten. Allerdings zeigt sich der Hausverstand des Vittorio Emanuele, die Politik des Möglichen sozusagen annimmt, während Cavour ja bekanntlich zurücktritt und einen riesigen Nervenkrise, Zusammenbruch hat, wobei die Frage offen ist, wie viel er hier gespielt hat, wie viel es echt war, was er meint, eher, dass er hier wirklich, da ein so emotiver Mensch war, dass meine echte Empörung, Auflehnung und Nervenkrise gehandelt hat, dass er da eigentlich alle beschimpft, den eigenen Souverän sich eben dann zurücktritt. Er verweist in diesem Zusammenhang mit auf Treitschkes Bemerkung im Cavour, in seinem Cavour-Essay, dass in diesem Augenblick die Bewegung in die Hand des Volkes übergegangen ist, wobei das hier die Nationalbewegung, in der Nationalbewegung noch kein Bruch zwischen Liberalen und Demokraten aufreißt, sondern alle zusammen und gewisse abenteuerliche Figuren wie Garibaldi, wie Fanti hier nun eine Rolle gespielt haben. Es kamen dann einige sehr interessante Stellen wurden zitiert aus dem Tagebuch des Marco Tabarini, Sekretärs von Riccardoli, über dieses Spiel der verschiedenen Gruppen, auch dass die Gefahr des Zerbrechens in verschiedene Bewegungen, und hier meinte er, dass eben aus diesem Erlebnis, also aus dieser Gefahr heraus Cavour eben sich zu einem starken Zentralismus bekannt hat, um diese Gefahr eines Zerbrechens in verschiedene Richtungen, verschiedene regionale Regierungen, Bewegungen, Komitees und so weiter zu verhindern. Nein. Facciamo. Adesso tu volete un momento di libertà oppure no. Cerco di brevemente. Sì. Dunque, dicevo che viene in primo piano di nuovo la questione romana, collegata però alla questione meridionale, perché nel 60 Cavour è costretto quasi come compenso al successo del moto nazionale fuori della Padania, famoso salto dell'Appennino, come ha detto uno storico, passaggio della Padania, a eseguire quella parte degli accordi che aveva preso con Napoleone III prima della guerra a Plombier, che comportavano la cessione delle province transalpine del regno sardo-sabaudo, Nizza e Savoia. Però anche lì questa cessione viene fatta con un certo, senza rinunziare a certe regole del liberali. La diplomazia di Napoleone III l'avrebbe volute mangiare senza tanti complimenti, e Cavour si sottopone prevedendo che sarebbe stata una battaglia feroce, prevede che ciò avvenga previa discussione in Parlamento, che il trattato sia eseguibile soltanto previa discussione di fronte a un Parlamento non più puramente piemontese, ma un Parlamento allargato. Guardate, qui è molto cosa che ha due aspetti. Per un verso, dal punto di vista teorico, è più libero un Parlamento allargato, è più giusto, no? Perché è una questione ormai italiana, la nazionalizzazione, dicevo, l'italianizzazione del regno dinastico stavolta si è discussa di fronte a un Parlamento allargato. Però, e ce n'è anche traccia nel diario di Tabarrini, qualche oppositore di Cavour nota che era un'abilissima giustificazione di una sorta di mercato che era stato fatto di Doudes, perché era un abilissimo modo di giustificarlo senza gravi urti, perché si sapeva che i deputati che venivano appunto dalle ultime regioni annesse, cioè Toscana ed Emilia, avrebbero votato a favore di Cavour perché era giustificato per loro questa trasformazione del regno dinastico in regno nazionale. Bisogna dire inoltre che all'inizio del 60 Napoleone, proprio anche per acquistare, per realizzare queste specie di diritto sull'acquisto delle frontiere naturali, e quindi l'acquisto della Savoia, aveva cambiato politica. Ed è la terza fase di cui non ho ancora parlato, anche della sua politica italiana, perché era troppo connessa al resto anche della politica napoleonica, anche rispetto alla questione romana. E devo dire che questa fase fu quella che rivelò, adesso guardiamo anche alla storia europea, vero? Che rivelò maggiormente la debolezza, le deboli basi di consenso dell'epigono del grande di Napoleone il Piccolo, come lo chiamava Victor Hugo. In fondo non si è mai capito se fosse lui che sosteneva, come voleva Verlaria di sostenere, la religione basandosi sulla tradizione del Concordat del primo Napoleone, o se una certa versione del cattolicesimo, che non direi fosse molto religiosa, sostenesse lui. Una versione politica del cattolicesimo politico conservatore ultrapapista sosteneva lui. Perché il suo atteggiamento in questi mesi e anche l'atteggiamento addirittura provocatorio del terribile principe Napoleone, che ambiva anche a diventare padre gran maestro della massoneria, provocatorio contro il Papa, contro il potere temporale almeno, questo atteggiamento, dico, della famiglia imperiale, salvo l'imperatrice che era ultraclericale, c'era anche una lotta in famiglia, mise in luce la debolezza delle basi di consenso, perché l'opposizione clericale fu così forte che proprio veramente lo mise in crisi, fu una situazione di crisi. Come cominciò questa fase della politica napoleonica? Cominciò con la pubblicazione di un opuscolo. Napoleone III aveva questo sistema ogni tanto di lanciare un opuscolo ufficioso che svelava i segreti della sua politica, creando naturalmente polemiche, e su queste polemiche erano poi in fondo un surrogato della più libera discussione, di una più libera discussione parlamentare che non esisteva. Questo opuscolo si intitolò Le Pape et le Congrès, e voglio darne subito il commento ricasoliano del segretario Ricaso di Maisumau, cioè di un cattolico anticlericale, diciamo così, o antitemporalista toscano. Commento che potrebbe essere scritto anche da Cavour, ma è molto bello. Le Pape et le Congrès ha avuto un successo immenso, anche nella traduzione italiana toscana, che uscì proprio a Firenze, con delle appendici molto significative. E siamo agli ultimi di dicembre. 29 dicembre del 59. Sì. L'opuscolo ha avuto un successo immenso. È forse il segnale di un'immensa trasformazione che subirà l'Europa. L'opera di Carlo V crolla negli ultimi fondamenti e il papato cessa di essere una sovranità per tornare una religione. Ma Dio sa per quali trafile passeremo, perché le transazioni sono oggi quasi impossibili e il clero è disposto a lottare. fino all'ultimo. È molto meglio. Vorrei aggiungere che da allora, da quel momento, Ricasoli si trova incoraggiato in una serie di polemiche col suo clero, di cui vi è traccia anche nell'appendice a questa traduzione del Pape del Congresso, che significò tra parentesi la liquidazione di Valeschi e l'avvento di un altro più duttile ma non intelligentissimo diplomatico. È un atteggiamento quindi più filo italiano, fino a un certo punto. Voglio dire che questo opuscolo, intanto dimenticavo, rese impossibile il congresso che si doveva tenere per discutere sulla questione, di nuovo ridiscutere sulla questione italiana, perché in questo opuscolo si accentuava l'esigenza del non intervento, si diceva che la Francia non aveva vinto in vano diverse battaglie a favore della libertà in Italia, della libertà italiana, che quindi insomma tutta la tendenza a restaurare i sovrani veniva considerata impossibile. Per di più si parlava delle riforme non fatte nello Stato Pontificio, un po' nei termini di quelle note di Minghetti di cui vi ho già accennato, quindi inutile che io mi ripeta: secolarizzazione, vantaggio per il Papa di delegare il suo potere per le province padane, chiamiamole così, a un vicario, che era poi una soluzione piuttosto ibrida che fu tentata e fu anche proposta al Papa, naturalmente fallì, secolarizzazione, eccetera. Tanto più piccolo il potere del Papa e il territorio del Papa, quanto più grande sarà la sua autorità morale, insomma, così, tanto per darvi. Nello stesso tempo, l'ha fatto notare l'altro giorno Are, si svolgeva una politica un tentativo di creare simpatie, Napoleone III cercava di creare simpatie in Inghilterra con un trattato commerciale in cui aderiva a linee liberiste. Però il nazionalismo inglese non si accontentava davvero di queste concessioni, e il nazionalismo inglese consisteva soprattutto in diffidenza verso la struggle for mastery in Europe, appunto verso una possibile egemonia francese, di cui la conquista dei confini naturali sulle Alpi era un sintomo, perché poi dopo tutto non c'era niente di strano, vero? Per questo parlo di un nazionalismo, anche il nazionalismo degli anglosassoni lo usano senza segno più né segno meno, ma parlo di un nazionalismo un po' angusto, nel senso che era soltanto per il sospetto, diciamo, che questo espansionismo poi si traducesse in altre manifestazioni più pericolose. Ora, Cavour si impegna in questa battaglia per far riconoscere un trattato, fra l'altro ci furono dei plebisciti, si discuteva molto se questi plebisciti tenuti in Savoia e Nizza fossero veramente autentici, cioè non fossero manipolati, eccetera. Ma questo si può discutere a lungo, ma certo è che Cavour, in contrasto con un discorso demagogico di Urbano Rattazzi, che è riportato appunto nell'antologia di Camaiani, in cui dice che Nizza è incontestabilmente italiana, che le frontiere naturali conquistate dalla Francia corrispondono alla privazione, e questo veramente è un caso di logica non logica straordinaria. Cioè, se i francesi acquistano le frontiere naturali, le perdiamo noi. Ora è abbastanza curioso. È incontestabile che con la cessione di Savoia e di Nizza alla Francia noi siamo resi militarmente più deboli, poiché siamo privi delle nostre naturali frontiere. E allora, a questo modo, vero, ogni Stato avrebbe diritto ad avere un spazio vitale, no? Una specie di pezzo in più, e questo quante volte è stato sostenuto, vero, voglio sapere, avere una specie di territorio di garanzia al di là delle frontiere naturali. Poi, del resto, il concetto di frontiere naturali è un concetto Dio sa quanto schematico e tratto. Ancora, l'ultimo tasto su cui gioca Ratazzi, dopo la cessione degli inizi di Savoia alla Francia, la nostra causa ha perduto l'aspetto di un movimento nel senso nazionale e ha preso il carattere di un traffico. Le simpatie, sia dei patrioti italiani, sia dice addirittura che erano nati in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, per noi, sono cadute. E questo è veramente un argomento demagogico. Devo dire che Cavour sopportò non soltanto l'assalto di Rattazzi, ma anche quello di Guerrazzi, dunque non è che tutti i toscani poi l'abbiano aiutato. Guerrazzi era un ex democratico piuttosto diventato trombone, si dice. E anche quello di Fanti dal punto di vista militare, che diceva Torino in pericolo. In generale, i piemontesi, i torinesi ebbero paura perché la frontiera diventava molto vicina e in fondo, fra l'altro, era già un primo passo per eliminare la possibilità di una permanenza della capitale a Torino, perché diventava una capitale terribilmente periferica. Quindi Cavour ha giocato un gioco abbastanza audace, questo se si può avere, non so se sia un mezzo, quello voglio solo metterti in atto. Nel discorso di Cavour su Nizza c'è qualche passo piuttosto bello, per gusto mio, perché io sono contrario ai dogmi, soprattutto ai dogmi nazional-patriottici, nazionalistici, sovinisti, eccetera. In sostanza, Cavour riduce, vabbè, la lingua, la cultura, questo, d'accordo. Cultura e lingua base. Per la lingua però tiene conto anche del dialetto, cosa che a me piace molto. Dice, badate che a Nizza, e l'ho anche verificato, sono andato a Nizza apposta a studiarmi la questione, a Nizza si parla un dialetto occitanico che non è né il francese né l'italiano. Quindi non mi dite che Nizza è italiana, il più importante giornale di Nizza, l'Avenir de Nice, è francese, eccetera, eccetera. E i colti di Nizza hanno un riferimento alla Francia, tutti i dintorni di Umgebung è chiamata France Rustique, si dice Nizza in Provenza, giustissimo, perché la Nizza è in Provenza. Insomma, tutte cose, vorrei dire, che portano a demitizzare questo concetto. Poi a proposito, siccome Garibaldi era nizzardo, c'era la grande questione, con molta arguzia dice, lo sapete che i francesi hanno avuto un grandissimo capo militare che non era francese, che si chiamava Massena. Allora cos'è tutta questa storia che Garibaldi viene, gli si taglia la testa perché gli si toglie la città di Nizza, e poi c'è questa frase che, se volete, è terribilmente spregiudicata. Dal giorno in cui si va in 12 ore da Chambéry a Parigi, mentre per andare da Chambéry a Torino ce ne vogliono 20, l'annessione alla Francia è fatta. Cioè, badate agli interessi concreti, badate alle comunicazioni, alle cose. Io credo che questo è una lezione abbastanza attuale anche per l'Europa di oggi, tu che ti occupi dell'Europa. Cioè demitizzare un po' tutte queste storie, vedere questioni interne. E poi c'è la grande questione, dice. Noi non possiamo fare una certa politica, appoggiarci, la nostra deve essere una politica di alleanza. Noi, per andare avanti, dobbiamo avere delle simpatie. E lì cita una lettera di Alessandro Bixio, che era fratello del Garibaldino, che però era d'accordo con Cavour in questo. Nel demitizzare il problema della nazionalità di Nizza. Dice Bixio, guardate che in Francia ce li abbiamo tutti contro, dicono abbiamo combattuto per voi e abbiamo spremuto sangue e denaro e voi cosa volete? Che per i vostri begli occhi si faccia tutto questo? Abbiamo anche qualche diritto alla vostra riconoscenza e che voi la proviate. Non ci sarà in Francia nessuna simpatia per l'Italia se questo trattato per Savoia e Nizza, previo plebiscito. Voglio notare appunto anche il coraggio di tutto questo, perché sembra oggi molto evidente, ma per i piemontesi Cavour disgustava ad un tempo i conservatori che amavano il vecchio Piemonte stato vero stato a cavallo delle Alpi, e disgustava una certa ala democratica. Quindi a me la gente che affronta l'impopolarità piace sempre, e credo che sia un aspetto del liberalismo, no? Per questo ho citato. Detto questo, passerei proprio alla questione romana, ricordando, come ricordavo, che è strettamente intrecciata la questione meridionale. Perché anche qui ritengo che vada sottolineato il coraggio di Cavour. Cavour lancia quel famoso discorso, ce ne ha fatti più di uno, ma il più famoso è quello del 27 marzo, meritatamente il più famoso, in cui c'è la proposta di una conciliazione di un rifiuto della perpetua guerra fra Stato e Chiesa, ma una conciliazione nella libertà e nella laicità, se così volete, lo lancia in un momento in cui si è già sviluppata quella terribile guerra sociale, dicevamo ieri, fra contadini del sud e piemontesi, ma anche democratici, in quanto collaboravano alla repressione, Bizio fece repressione anticontadina in Sicilia e altri garibaldini la fecero nel napoletano. Era già nata la guerra sociale che soggiaceva a Brigantaggio, e questa guerra sociale veniva palesemente sostenuta da Roma e da, non dico dal Papa in persona, ma dall'entourage di Pio IX e dall'entourage di Francesco II, che era insediato a Roma. Ora, ci vuole il coraggio, dopo una serie di episodi spaventosi, di massacri reciproci, si può parlare del massacro, della strage di Scurcola a carico dei repressori piemontesi, si può parlare di altre stragi a carico della parte opposta, ma certamente salvare, rivolgersi all'opinione pubblica in un momento europea e cattolica di buona fede, come Cavour dice, in un momento come quello ci voleva un bel coraggio. Peraltro può anche, perché bisogna essere anche vedere tutti gli aspetti, può anche essere stato un appello disperato, cioè vedendo che non si può considerarsi una specie di ultimo ricorso all'opinione pubblica, poiché la questione non poteva risolversi altrimenti. Aggiungo che fu fatto quando le trattative che aveva iniziato Cavour tramite alcuni suoi emissari, di cui almeno uno era estremamente serio ed era un gesuita, Auclair, stavo per dire, che si chiamava Passaglia. Pantaleoni era troppo chiacchierone, come fu detto da diversi, anche da Tournel, che era il ministro degli esteri francesi allora, ma però non era uno stupido. Poi c'erano altri personaggi un po' loschi, forse uno però fu evocato dallo stesso Antonelli per dimostrare che, cioè, fu un finto emissario, si offrì a Cavour per poter dimostrare che la trattativa era ambigua. Queste trattative stavano cadendo in coma, vorrei dire, soprattutto dopo una feroce allocuzione che chiamerei antimoderna di Pio IX, mentre la situazione a Napoli si aggravava a punto tale che Villamarina, allora inviato ambasciatore a Parigi, diciamo piemontese, italiano, non so come dire, a Parigi, registrava delle reazioni negative su questo aggravamento della situazione a Napoli su tutto il fronte diplomatico europeo, sicché Napoleone III non nascondeva la fiducia nella possibilità di sopravvivenza di uno Stato unitario italiano. E inoltre lo stesso Napoleone III era talmente indebolito da questa opposizione clerico-temporalistica che non poteva più sostanzialmente aiutare gli italiani, chiamiamoli così, Cavour e Vittorio Emanuele. Potrebbe essere quindi una commedia, come la definivano i democratici, questa interpellanza che sfocia in questo Audinot, che sfocia in questi discorsi, e soprattutto in questo discorso del 27 marzo. Potrebbe essere, dico, però anche fatta parte, fatta la debita parte a questa ipotesi, non si può dimenticare che c'era una radice in queste affermazioni di Cavour. Quando Cavour parla delle sue simpatie per la lotta fra liberali e cattolici nel Belgio, non fa che dire quel che pensava da molti anni. E lì, anzi, è una delle cose più belle che l'alleanza, tu vuoi dire, per l'alleanza tra cattolici e liberali, tu hai detto, per la lotta. Lotta feconda, no, lotta feconda, perché appunto se parlasse solo di conciliazione, ma è conciliazione attraverso la lotta, per questo noi dobbiamo parlare del liberalismo in Cavour, di cui sì, non mi sono espresso abbastanza bene. È vero che vi è lotta, è meglio commentare questi fatti. È vero che vi è lotta vivissima, ardente fra il Partito Cattolico e il Partito Liberale, ma questa lotta non è stata funesta al Belgio, non è stata funesta alla libertà. Questo è una conciliazione basata sulla libertà. Quanto alla formula, che si suol chiamare formula così, libera chiesa in libero Stato, Cavour la ruba non agli svizzeri come, ma a Montalembert, e è un furto però sincero, perché se io vado indietro a studiare Cavour nel giovane, trovo che nel 1843 scrive all'amico Santa Rosa che se la Becker, che era un cattolico liberale francese, avesse vinto la battaglia in seno all'opinione cattolica e avesse persuaso tutta la Chiesa che l'accordo fra i principi cristiani e le idee di progresso erano la strada da percorrere, ecco, egli sarebbe diventato cattolico come lui, e si chiamava Pietro di Santa Rosa, quello a cui si rivolgeva, quello a cui furono poi negati i sacramenti con grande ira di Cavour, perché era compromesso, secondo l'arcivescovo di Torino, con questa eresia delle leggi Siccardi, abolizione del foro ecclesiastico, eccetera. Quindi c'è una radice, non è che Cavour improvvisi questa idea di grandi concessioni da parte dello Stato, di concessioni con naturalmente rifiuto di cose che lui aveva fatto e che si stavano ancora facendo. Soppressione di ordini religiosi, talvolta fatte a sproposito, perché forse a Napoli fu uno degli errori commessi, adesso poi ne potremo parlare nella discussione, e altre cose di questo genere, tutto il ricorso alle armi cosiddette giurisdizionali, era dire le butteremo via d'ora in poi, ma però naturalmente è una condizione, le butteremo via se la Chiesa butterà via anche il suo atteggiamento di rifiuto delle nostre esigenze, che sono poi le esigenze dei, come diceva Cavour, dei cattolici di buona fede. Ci sono anche delle parole, leggo ancora una frase, poi mettiamoci a discutere che fosse meglio. Ci sono anche delle parole che esprimono proprio quel liberalismo conservatore, che sono un'altra garanzia, direi, della coerenza di certe affermazioni di Cavour. Il potere temporale è garanzia di indipendenza quando somministra a chi lo possiede armi e danari per garantirla, ma quando invece costringe il potere temporale ad un principe, lo costringe ad andare a mendicare delle altre potenze armi e danari, è evidente che è un argomento non di dipendenza, di indipendenza, ma di dipendenza assoluta. Aveva anche parlato una volta del Demerod con molta durezza a proposito di mendicare dalle altre potenze armi e danari, e persino ministri delle armi, si può dire. De Merod era un monsignore belga che era pro ministro delle armi di Pio IX, cosa che oggi sembra paradossale. L'uomo che vive tranquillo a casa sua, che non ha né debiti né nemici, mi pare mille volte più indipendente di un ricchissimo proprietario di latifondi che ha sollevato contro di sé l'animo di tutti i suoi contadini e che non può uscire se non circondato da bersaglieri e da soldati. Questo direi è forse un passo abbastanza dimenticato, ma abbastanza efficace, perché sempre il discorso del 27 marzo. Il 27 marzo 61, in cui estrae la formula libera chiesa in libero Stato. Ancora a proposito delle origini della formula, se ne è discusso molto. Leggendo con attenzione il Catechismo sulla questione romana, si trova che Passaglia gli parla di questa formula non molti giorni prima in cui lo enuncia. Quindi veramente c'è stata una collaborazione stretta fra questo, è paradossale, fra questo gesuita, Cavour non era ma per nulla filo gesuita, fra questo gesuita transfuga, se si vuole, e Cavour nell'arrivare a formulare questo progetto di conciliazione nella libertà. Progetto di un license, perché lui non dice mai io sono, lo propongo come cattolico, e questo è anche da notare. Progetto di un laico che tuttavia cerca di, come forse noto con un aneddoto, cerca di morire nella pace con la Chiesa, perché in fondo ha un residuo di, così, di nostalgia per i valori religiosi, un po' come Tocqueville, no? Mi pare che anche qui si possa paragonare, no? Ha un residuo, direi, si mette, i dogmi sono messi tra parentesi, ma però la religione è un valore. Besonders schwierig wird, dass in Frankreich diese Unterstützung, die katholische Unterstützung, ihm auch zweifelhaft wird. Und hier hat ja dann Napoleon III. Durch die Veröffentlichung des berühmten anonym erschienenen Flugschrift Le Pape Le Congrès eigentlich nun wieder der Steuer herumgeworfen und sich auf die Seite der italienischen Nationalbewegung gestellt und die Unmöglichkeit der Ausführung der gewisser Bestimmungen von Villafranca und Zürich ja hier populär gemacht. Für Cavour wird es dann auch noch schwierig, dass er angegriffen wird ja von Urbano Ratazzi, der gegen diese Abtretung von Nizza und Savoyen war, hier der Vorwurf, dass er mit Italien Frankreich seine natürlichen Grenzen erhält, aber Italien seine natürlichen Grenzen verliere. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Gegnern, eine ungeheuer kühne Politik und gefährliche Politik, die Cavour betrieb, denn durch die Abtretung von Nizza und Savoyen hat er sowohl die altpiemontesischen Konservativen wie eben auch einen Teil der Linken, der nationalistischen Linken, eben gegen sich gehabt. Es gibt dann allerdings auch Unterstützungen, wie etwa die durch Alessandro Bixio, den Bruder von Nino Bixio, der hier sprach, dass Frankreich das Recht auf Dankbarkeit und auch auf Entschädigung für seine Opfer habe. Die letzte Phase dann, die für Cavours Politik entscheidend ist, ist die enge Verknüpfung der römischen Frage mit der süditalienischen Frage, wie sie durch die Expedition Garibaldis aktuell geworden ist. Der außerordentlich kühne Entschluss, hier durch den Kirchenstaat das piemontesische Heer, das reguläre Heer nach Süditalien vordringen zu lassen, wobei man ja die europäischen Mächte auch dadurch stillhielt, dass man sagte, wenn man nicht danach nach Süditalien kommt, wird dort eine rote Republik gebracht. Und als diese ganzen Fragen ja noch nicht ganz gelöst sind und in Süditalien ja ein sozialer Krieg begonnen hat, der von gewissen römischen klerikalen Kreisen unterstützt wird, und außerdem die Situation außerordentlich gespannt ist durch eine ganz scharfe antimoderne, modernistische Rede, Ansprache Pius des 9. erfolgt dann jener berühmte Rede Cavours vom 27. März 1861, in der die berühmte bis heute nachwirkende Formel von der freien Kirche im freien Staat ausgesprochen ist, die auf den französischen liberalen Katholiken Montalembert zurückgeht. Hier ist interessant eine Zusammenarbeit zwischen Cavour und einem Ex-Jesuiten, Passalia, hier bietet nun Cavour in dieser so außerordentlich gefährlichen und schwierigen Situation einen Frieden mit der Kirche an, der Gedanke einer Versöhnung eben aufgrund dieser Formel, wobei er seinerseits von Seite des Staates gegenüber der Kirche den Verzicht auf die staatskirchlichen Waffen, die er bis dahin seinerzeit schon in Piemont verwendet hat, also das, was wir etwa bei uns in Österreich josephinischen Waffen, also die Waffen eines staatskirchlichen Systems, die Armi Giurisdizionali, des Giurisdizionalismus, also der Reglementierung der Kirche durch den Staat, diesen Verzicht sozusagen als Gegenleistung dafür für eine tolerantere und elastischere Haltung der Kirche, ein sich zurückziehen der Kirche auf die religiöse Sphäre, also hinter die berühmte Jus Circa Sacra, die er eben vorgeschlagen hat. Und das ist ja sozusagen dann das Erbe, die große Erbschaft, das große Testament Cavours, das er dem italienischen Liberalismus gegeben hat, diese Formel auch von der freien Kirche im freien Staat, mit der Aussicht auf eine mögliche Versöhnung zwischen Kirche und Staat. Kann man arrivare? Meglio di quel che ho detto io. No. Facciamo adesso 10 minuti di intervallo. Penso che il fatto che Cavour pensava al periodo tra il 1831 e il 1848 nel vecchio, quel periodo che si potrebbe chiamare Union Sacré tra i cattolici e i liberali, la difesa delle libertà costituzionali. Einbringen, die in dem Kontext der bisher gehaltenen Vorträge gehört. Professor Schemeli hat gestern gegen Ende der Diskussion das Stichwort Amerika angesprochen, im Zusammenhang mit einem Briefwechsel zwischen Kapp und Bamberger, glaube ich. Ich möchte darauf zurückkommen und noch einmal wahrbringen, dass zum Zeitpunkt der Konstituierung der Frankfurter Volkskirche ja eine geschriebene liberale Verfassung bestand, wenngleich sie nicht offiziell das Etikett trug, die amerikanische Verfassung eben nicht. Es existierte weiterhin eine sehr profunde, auf einem sehr hohen Niveau stehende Diskussion über die eine Punkt-für-Punkt-Diskussion. Ich denke hier in erster Linie an die 85 Essays, die Hamilton, Madison und Jay veröffentlicht haben, wo Punkte angesprochen wurden von so grundlegender Bedeutung, die auch für die Frankfurter Volkskirche sehr interessant sein mussten. Beispielsweise das wegen der Zentralgewalt, Bundesstaat, Staaten und so weiter. Und ich frage mich eben, warum diese schon vorhandene Tradition so wenig Einfluss hatte auf das, was dann in der Volkskirche diskutiert wurde. Das ist vor allen Dingen bezeichnet, wenn man die Diskussion in einem Bundeskonvent in Philadelphia verfolgt und vergleicht mit den Debatten in der Paulskirche, die also einen sehr erheblichen Niveau unterschied. Und für mich ist es sehr unbefriedigend, nicht erklären kann, warum also so wenig Einfluss auf die Paulskirche gekommen ist. Das waren die Punkte. Weil mit dem Trauma der Französischen Revolution allein, glaube ich, kann man es nicht erklären, denn die amerikanische Verfassung war ja kein Produkt der sozialdemokratische Kräfte, sondern eher linksgegen demokratische Tendenzen in einzelnen Staaten. Lei ha capito secondo ho capito, cioè il problema perché il Federalist Papers eccetera non hanno avuto l'influsso. Dunque, se mi è consentito darei una risposta un po' articolata sul problema, credo di grandissimo interesse, della suggestione esercitata dagli Stati Uniti d'America nella cultura europea, spiccatamente tedesca, questa specie tedesca, a partire così nel periodo anni 30, anni 40, no? Noi sappiamo tutti, Matteo c'è il maestro della democrazia in America, però possiamo ricordare anche dei filoni sensimoniani, di Duvalier per esempio, Chevalier, che introducono un'America non costituzionale, ma economicistica, produttivistica, tendenzialmente protezionista nella cultura politica ed economica europea. Il costituzionalismo tedesco con Dahlmann ha il modello inglese, piuttosto e non il modello della federazione americana. Le correnti di sinistra alla Paulskirche hanno presente il modello della federazione americana, ma anche il modello della confederazione svizzera. Sono entrambi questi due tipi di Stato che Runge, per esempio, altri, può anche ricordare le critiche molto aspre che Marx ed Engels mossero a questa posizione sulla Neue Rheinische Zeitung, sostenendo che una federazione di tipo nordamericano non era realizzabile in Germania, mentre sarebbe potuta essere realizzabile in futuro una federazione di stati europei con una Germania unita e non confederata. C'è un libro che io ho solo consultato di Moltmann intitolato Atlantische Blockpolitik, dove parla appunto delle conoscenze reciproche che si ebbero nell'opinione pubblica americana della Paulskirche e in Germania della Confederazione americana. E rinvio a questo volume per biograficamente, no? Il caso di Friedrich Kapp è un caso molto diverso, cioè eventualmente più avvicinabile a Dunoyer che a Chevalier. Cioè l'America che piace a Friedrich Kapp, soprattutto nei primi anni dell'esilio, dopo si disamora un po' nel 1955, nasce in lui la nostalgia per la Germania, anche se però si impegna nelle battaglie antischiavistiche e si impegna a favore del Nord nella propaganda della guerra civile americana. No? Però l'America di Friedrich Kapp è l'America economica, è l'America della produzione industriale, è l'America dell'efficientismo, della tecnica, non è l'America della costituzione politica, no? Questo per dire, allora, che nella cultura europea, con questi riferimenti alla Francia e alla Germania, corrono due tendenze di attenzione e di riflessione sull'America. Una costituzionale politica, una quella che inneggia all'homo economicus, no? Al produttivismo. Ecco, Kapp appartiene a questa seconda tendenza. Per quando il modello della costituzione americana, io alla Paulskirche io tenderei tutto sommato a sottovalutarlo, perché tranne che alcuni richiami nei gruppi di sinistra, non mi sembra che abbia avuto un'importanza particolarmente significativa. Diverso sul terreno dell'ideologia politica, ripeto, il modello invece del costituzionalismo inglese, del bicameralismo, che Dalman teorizzò nella politica. Ich darf dazu nur eins vielleicht Ich möchte nur dazu sagen, man muss sich klar machen, wie fern Amerika noch war. Ja, dann, dass das auf der Ebene der Ideologie zur Kenntnis genommen wurde, aber zur praktischen Politik doch fast noch nicht. Und was Sie von Dahlmann und seiner England-Seite sagen, es geht von den westdeutschen Liberalen bezüglich Frankreich. Man glaubte, die Modelle so nahe zu haben und hat ja auch anhand des französischen Modells der Schacht von 1814 den eigenen Konstitutionalismus entwickelt, dass man sich damit noch weithin bemüht. Das stimmt sicher. Es gibt eine Arbeit, noch eine ältere, ich habe sie immer hier mit den älteren Arbeiten, von einem Sohn von Günter Franz, ich weiß es nicht, ist es der Ottmar oder ist es der andere, über Amerika, das Amerika-Bild der deutschen, der Paulskirche. Es ist ja von diesen 800 Abgeordneten, ich glaube es sind 6 oder 7, darunter mein Möhring übrigens, die in Amerika waren. Möhring war 3 Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und er hat zum Beispiel auch ein paar Mal gesagt, wir müssen ein Bündnis mit den Vereinigten Staaten, das ist die Zukunft der Menschheit, die Vereinigten Staaten hat der liebe Gott geschaffen, damit die Menschen, wenn sie verzweifelt sind über die Zustände im alten Europa, immer wieder eine Hoffnung für die Zukunft haben und so weiter. Aber das blieb alles natürlich am Rande marginal. Und das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass man zum Schluss sogar den Möhring wieder nach Amerika schicken wollte, dass er ein Kriegsschiff kaufen und ausrüsten sollte für den Krieg gegen Dänemark, das ist ja dann natürlich alles dann gar nicht mehr in Frage gekommen. Also es ist sehr weit, es ist doch sehr weit weg. Wir müssen ja auch eines immer wieder sagen, Gewissmann hat der Paulskirche vorgeworfen, dass sie zu lang diskutiert hat. Aber sie hat ja natürlich doch immer wieder unter Zeitdruck diskutiert. Und zur Zeit der Federalist Papers, da war eben viel mehr Zeit, während man da doch unter dem Zeitdruck stand, besonders ab Juni nach der französischen Junischlacht des Erstarkens der Einzelstaaten man hier eben dann die ganze Grundrechtsdiskussion ja doch unter dem Druck auch der Ereignisse im Herbst in Wien zum Beispiel dann in Berlin auch stand. Ja. Zur Verabschiedung der Verfassung hat man nicht einmal 4,5 Monate gebraucht in den Vereinigten Staaten. Und ich weiß nicht, ob die Vereinigten Staaten wirklich so weit entfernt waren, denn die Kontakte zu Frankreich waren sehr eng. Und Jefferson war in Heidelberg, es gab auch. Ja, sicher, es gab sie, aber sie sind halt doch nicht so. So, es ist eine Frage dann der Gewichtung. Natürlich gab es viel mehr, als wir heute annehmen wollen. Aber sehen Sie, ein typisches Beispiel vielleicht, auf das ich hinweisen kann. Es gab ein Werk über die, eine kleine Flugschrift auch über die Grundrechte. Und zwar ist das nachgewiesen worden, dass das von Theodor Mommsen stammt. Das hat jetzt erst vor kurzem der Mommsen-Biograf Wickert ja doch entdeckt, eigentlich auch die Schriften Mommsen, weil es anonym erschienen ist. Das war zwar in 100.000 Exemplaren verbreitet, ist aber dann völlig über das ist man dann völlig hinweggegangen. Also es sind die Zeitereignisse. Aber ich glaube, jetzt müssen wir uns Diskussion über Fasserei zuwenden. Vortrag, darf ich um Wortmeldungen bitten? Wieder, prego, anzitutto, signori borsisti, di prendere la parola. Forse, bene, benissimo. Io volevo prendere spunto da un'osservazione di Passeret sulla definizione di risorgimento come rivoluzione borghese, su cui gli faceva delle riserve, tenendo conto anche della partecipazione degli aristocratici non solo al movimento moderato, ma addirittura alle correnti democratiche. Ecco, io credo che sarebbe interessante a questo proposito E allora mi ricollego un po' anche a alcune affermazioni finali ieri sera di Cervelli. Fare un po' un confronto tra la situazione italiana e la situazione tedesca, perché che riguarda il rapporto tra sviluppo economico e movimento nazionale. E Cervelli ieri sera notava giustamente come in fondo la situazione sia un po' capovolta, la situazione italiana rispetto a quella tedesca, nel rapporto tra sviluppo economico e movimento nazionale. Anche lui ha fatto delle osservazioni interessanti a questo proposito. Perché certamente in Germania lo sviluppo economico, anche industriale, è molto più accentuato nella prima metà dell'Ottocento che in Italia, però vediamo come lo sviluppo ideologico, costituzionale, sia meno accentuato, non meno avanzato rispetto al liberalismo italiano. Mentre in Italia noi abbiamo uno sviluppo economico molto più modesto e particolarmente l'industria, direi, la borghesia capitalistica è molto meno sviluppata e pertanto certamente l'improprio, direi che è una sovrapposizione ideologica, schematica, parlare del movimento nazionale italiano, anche della tendenza all'unità, come prodotto degli interessi di una borghesia capitalistica cosciente dei propri interessi, che aveva bisogno di un mercato per la sua espansione. È una tesi che era già stata in fondo contraddetta da Grinfield nel mai classico, antico, ma credo sempre valido, lavoro sulla Lombardia, no? In cui però faceva un'osservazione interessante, qui diceva appunto che si può semmai parlare di una componente borghese nel movimento nazionale italiano se si parla soprattutto della pubblicistica, cioè del fatto che i pubblicisti lombardi additarono anche alla stessa aristocrazia, ai proprietari terrieri, alla nascente borghesia industriale, additarono il modello dello sviluppo sociale, economico e politico degli stati d'Europa più avanzati, cioè di quella rivoluzione industriale che dall'Inghilterra, attraverso i Paesi Bassi, attraverso la Francia, attraverso la Germania, si stava diffondendo anche nel continente, portando quindi a nuove esigenze, se non altro di liberalizzazione commerciale, no? Ecco, il modello del Solferaio, per esempio, certamente agisce molto in Italia con la Lega Doganale, con le cosiddette Lega Doganale. Quindi, da questo punto di vista, si può parlare semmai di rivoluzione borghese di tipo, come potremmo dire, volontaristico, ecco, come modello di comportamento, ecco, che viene additato e che certamente diventa una forza reale, nella misura in cui anche i modelli diventano un elemento propulsivo, ecco, anche se poi non esistono delle premesse strutturali già mature. Ecco. E da questo punto di vista vorrei ricordare anche la relazione che molti di noi hanno ascoltato di Capagna, il congresso di Mantova, l'ultimo congresso di storia del risorgimento, che aveva proprio questo tema, ecco, in cui mi pare abbia impostato correttamente. Capagna in fondo è di origine, o almeno originariamente, no, di matrice marxista, però ha tenuto molto a distinguere le posizioni marxiste dagli schematismi economicistici, diciamo, no? Cioè ha ricordato per esempio come lo stesso Labriola, che è il fondatore del marxismo italiano, ha impostato il discorso in questi termini, cioè sostenendo come la borghesia non era affatto capace di poter dare la spinta al movimento nazionale d'Italia, perché appunto era molto ancora in embrione, e che semmai appunto c'è soltanto questa componente ideologica di una parte più illuminata anche della stessa aristocrazia, che pur essendo formata appunto da esponenti del vecchio ceto, però hanno capito che l'avvenire è ormai dato dallo sviluppo sociale che si è già realizzato nei paesi più avanzati, tra cui la Germania. E quindi in qualche modo, pur essendo aristocratici, si proiettano nel futuro come borghesi. Questo è l'esempio anche di Cavour. Cavour gestisce la sua tenuta di re in termini capitalistici, come vuole essere aristocratico. vincenti, Riccardi, eccetera. Quindi allora appunto, Pasolini, al di là dello schema, poi gli schemi servono soltanto alle battaglie ideologiche, rivoluzione borghese, a certi schematismi, eccetera. Si tratta di spiegare cosa si intende, insomma, con rivoluzione borghese sì, se si intende una certa cosa, insomma. Qui aggiungere una cosa, und darf ich vielleicht das auf Italienisch sagen, weil ich hier auch Professor Matteucci sozusagen domanda, etwas fragen möchte. Mi è venuto in mente già ieri sera, quando abbiamo discusso questo problema posto da Ulrich del sviluppo economico in Germania, economico e sociale, e sviluppo politico in Italia, e anche quando ho parlato questo mio tema di questo parallelismo di cui ha parlato Trech, che quando ha detto la Prussia e il Piemonte avevano la missione di unificare la nazione perché avevano, grazie al congresso di Vienna, tutti e due questa combinazione fra aristocrazia tradizionalista in Germania nell'est in Italia nel Piemonte e la moderna borghesia industriale nella Renania e Genova e la Liguria. Mi viene in mente che qui c'è la vecchia teoria dell'equilibrio, la vecchia diciamo che si può ricondurre fino al periodo dell'antichità, al Polibio, eccetera, della monarchia moderata o delle tre forme di cose. Che qui c'è proprio l'idea, la teoria che solo uno Stato che ha quell'equilibrio fra forze tradizionali, aristocrazia da un lato e borghesia e progresso e liberalismo dall'altro lato, che trova il suo ideale. Anche per questo forse l'America non sembrava un esempio, ma l'Inghilterra il paese naturalmente dell'equilibrio fra corona e parlamento, le due camere. Tutto questo è per il liberalismo moderato, diciamo, un ideale. L'ideale dell'equilibrio fra queste due forze, grandi forze della vita degli stati, e questo che tu hai detto oggi dell'amalgama, sì. In fondo la stessa cosa, o quello che in Austria appunto è il programma del neoassolutismo di Schwarzenberg, il viribus unitis, cioè forse conservatrici, l'aristocrazia da un lato e la borghesia dall'altro. Questo è tutto il popolo, si dimentica naturalmente ancora il proletariato e le altre case, ma questa è la nazione, questi devono collaborare, gli uni sono ritardatari, ritardano un po', gli altri sono il progresso, e questo equilibrio soltanto garantisce un progresso lento, e la teoria del juste milieu e di tutto quanto. E credo che questo è veramente un denominatore comune di tutti i liberalismi dell'Europa di quel periodo, a cominciare dalla monarchia di luglio dalla Francia. È d'accordo con questo, lo stato misto è la traduzione in termini istituzionali di un equilibrio sociale che vuole l'intero, appunto, sì. Una traduzione in termini istituzionali, il signora Weinig Mazzol Weinig. Ja, natürlich. Entschuldigung, ich habe nur jetzt Italienisch, weil ich eben wollte, dass Kollege Matteucci da fragte. Nein. Nein, warum sagt er? Also reden Sie Deutsch, was Sie wollen. glaube, dass die Rauch die Festhalte am monatlichen Prinzip, von der Kanzlerin gesprochen hat, dass es für Lombardo Venetien und gegenüber Österreich die Kultur und die Sache sehr erleichtert. Und es konnte auf diese Weise eine ganz normale diplomatische Verbindung zwischen Österreich und dem Mond stattfinden, während in den italienischen Ländern Lombardo Venetien selbst da ihre Wolken gegen Österreich stattfanden. Aber man dachte, dass in Österreich dadurch sehr lange Zeit nicht miteinander in Verbindung. Das heißt also, auch nur wie zum Beispiel die Februarrevolution von 1953 wurde als maximianische, republikanische Revolte interpretiert. Und das war ein Und was war sie? Es war ein Ja, aber der Zusammenhang, dass also Piemont Mitinitiator gewesen sein könnte, beziehungsweise dass die Gefahr in Wirklichkeit nicht von den maximianischen Unruhen kam, sondern von dieser engen Zusammenarbeit zwischen Lombardo Venetianischen Moderati und Piemont, über die Art und Weise sehr lange verfolgen. Ich finde auch, dass die Lombardo Venetianische Emigration in Piemont eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat dafür, dass die Lombardei dann verloren ging. Und diese Bedeutung der Emigration wurde lange Zeit von Österreich nicht in der Weise interpretiert. Man dachte, man könne die Feinde aus dem Lande jagen und nach 48. Und in Wirklichkeit bestand die Gefahr darin, dass die Leute dort saßen. So, zum Beispiel Francesco Ambrosoli schrieb Schmähschriften gegen Österreich, wurde das bezeichnet. Während er noch weiter seinen Kaiser die königlichen Professoren gehalten hat. So, die Langsamkeit der Bürokratie, gekoppelt mit halt nicht Einsicht in die wahre Bedeutung, führte dazu, dass man Piemont selbst nicht als den eigentlichen Gegner ansah. Während hingegen also Piemont in seiner imperialistischen Außenpolitik der größte Gegner war als alles, was in der Lombardei stattgefunden hat. Das führte auch dazu, dass Cavour zum Beispiel bestens informiert war über alles, was in der Lombardei stattfand, dass noch bevor der Krieg ausgebrochen war, schon die Kommission in Linie ein fertiges Konzept ausgearbeitet hatte, dass die Lombardei sofort übergeben werden konnte. Sofort nach dem Ultimatum traten die Kommission zusammen und bevor der Krieg ausgebrochen war, war das Konzept vollendet. Ja, ich glaube schon, dass Österreich Gefährlichkeit erkannt hat. Und zwar sehr früh, nur hat man sich zurückgehalten. Man hat die Marschen gegenüber Sardinien Piemont überlegt. Man hat sich nicht zurückgehalten. Man hat sehr wohl über die Tätigkeit der Emigranten Bescheid gewusst. Man hat schon über die Tätigkeit Bescheid gewusst, aber gerade dieses Betonen des monarchischen Prinzips, man glaubt, dass sie unter Gleichgesinnten sind. Ja, ja, aber die Dynastie hervorzog. Und man glaubt ja, also, dass es überhaupt kein Problem sei. Was war kein Problem? Piemont. Piemont, in sich. Ja, in der österreichischen Sicht. Mhm. Naja, dazu hängt ein bisschen vielleicht, darf ich da zwischen den beiden Damen mich bemühen, sozusagen zu vermitteln. Es hat natürlich, spielen die verschiedensten Dinge eine Rolle. Es spielt natürlich die Erfahrung von 48, 49, das Scheitern von Karl Albert. Auf der anderen Seite die engen dynastischen Verbindungen. Man muss ja denken, sowohl Viktor Emanuel wie Karl Albert waren also mit Österreich und habsburgischen Prinzessinnen, Herzoginnen verheiratet. Man hat das Haus Savoy als ein seit Generationen verwandtes und verbundenes und in vielfacher Hinsicht verbundenes empfunden, dass man vielleicht, das möchte ich Ihnen recht geben, ein gewisser Teil in Wien, gerade sagen wir von der Dynastie her, die Piemont als nicht so gefährlich gesehen hat. Und außerdem man sich gesagt hat, die haben wir ja sowieso innerhalb von 5 Tagen nicht mehr bei Novara geschlagen, die sind keine Gefahr. Aber andere wahrscheinlich. Nicht sehr wohl gewusst und haben sehr wohl überlegt, wie man da vorgehen könnte. Aber vielleicht eben schon aus philatischen Rücksichten hat man sich vorerst einmal zurückgehalten. Man wollte sozusagen eine europäische Sache machen drauf. Ja. So früh als möglich wollte man keine europäische Sache. Man wollte keine europäische Frage daraus machen. Und, ich glaube, man muss auch überdenken, wie sehr Skavour verstanden hat, in Europa die Karte der liberalen westeuropäischen öffentlichen Meinung ins Spiel zu bringen. Wie man sagt, bitte, wir haben eine Verfassung, bei uns können die Migranten ins Parlament gewählt werden, schreiben, bitte. Das ist unantastbar und bekämpfen seitens dieser bösen Reaktionäre. Und wir kämpfen. Er musste das sein eigenes politisches System in Europa verkaufen und dadurch auch die österreichischen Einmischungen etwas einzudämmen. Und dazu kam dann die Teilnahme am Krimkrieg und so weiter, der ja doch ein liberaler, der Krimkrieg, der ja in der öffentlichen Meinung als ein liberaler Kreuzzug gegen den Zarismus angesehen wurde. Gerade die öffentliche Meinung in England wollte Österreich nicht gegen sich aufbringen, in diesen frühen Jahren, das stimmt. Was war das eigentlich? Die öffentliche Meinung in England hat sich überhaupt England und die freundliche Haltung Englands zu Sardinien hat Österreich gefürchtet. Man wollte sich mit England nicht vereinigen. Es wurde natürlich zum Beispiel dann erkannt, dass es ein Fehler war, diese Leute aus dem Land zu schicken, ganz einfach aus konkreten Überlegungen, weil es an den Universitäten keine Professoren mehr gab. Man wollte die Hochschulreform realisieren und es gab niemanden, mit dem man sie realisieren hätte können. Aber die Intellektuellen. Aparte Kanton. Nee, Parma, komm ich da rein. Die indirekte Beeinflussung, die wurden nicht erkannt. Wenn der Maximilian zum Beispiel Volk und Hoffnungen mit seinen modernistischen Vorstellungen in die Lombardei kommt, und glaubt, es wäre das Ziel letzten Endes, dieser Leute ökonomisch und modernistisch sich entwickeln zu können. Und mit seinen Vorstellungen ist Cavour Leistungen dazu. Das sagt ja entsprechend sehr und ich will mich nicht hinter Cavour zurückstellen. Dann war einfach nicht richtig eingeschätzt, was heißt das, mich hinter Cavour zu stellen? Das verstehe ich nicht. Ich will nicht hinter zurückbleiben. Ma mettermi in gara con Cavour. No, lui voleva mettersi in gara. Voleva mettersi in gara con Cavour. Sì, no, non capivo per sì, ma è tutto indiretto. No, parli pure tu. Tutti i moderati lì pensavano che lo sviluppo economico veniva proprio soltanto dal Piemonte, non più dall'Austria. Era una cosa molto importante. Posso forse riassumere la discussione un po' per i colleghi italiani? Si tratta del problema che la dottoressa Mazzola ha detto per la politica di Cavour nel Lombardo-Veneto era molto importante questo principio monarchico, perché secondo lei questo ha impedito un po' l'Austria di riconoscere il vero pericolo nel Piemonte, che lui si credeva sempre che tutto fosse soltanto una sommossa dal basso, mentre il Piemonte in fondo era monarchico, era anche imparentato molto con gli Asburgo. Allora si vedeva il pericolo solo nella rivoluzione, nel mazzinianesimo, negli attacchi del 53, eccetera, e non si vedeva il pericolo che veniva dal governo piemontese, o si notava troppo tardi. E invece la dottoressa Hengel dice, però sul livello dei ministri capiva abbastanza presto anche in Austria il pericolo che veniva dal Piemonte e dal governo di Cavour. E insomma qui abbiamo diverse valutazioni che dipendono, naturalmente sono determinate in gran parte dalle esperienze del 48-49 e di una certa anche superbia, perché si dice si poteva naturalmente liquidarlo entro pochi giorni, la tradizione di Radetzky, il culto, il mito dell'esercito di Radetzky, che aveva in quel periodo una certa influenza. Non era solo un mito, era un buon esercito. No, io credo che, se posso dire una parola, che mi interessa molto, tanto più che so che la signor Mazzol ha studiato quel periodo di Massimiliano e desidererei molto leggere quello che si era pubblicato. Ma insomma, io aggiungerei, lei avrà letto una memoria di un mezzo democratico, cioè un democratico moderato, si chiamava Cesare Correnti, sulla Lombardia nel 58-59, mandata a Cavour. E in fondo, dopo il 48, questa è una cosa di cui discutevamo anche con Camaiander, dopo il 48 non è che anche in Lombardia i patriotti avessero fossero molto di animo allegro e battagliero. Insomma, c'era stata una rivoluzione fallita, per essere detto qui, e di mezzo. Però, scusi, ma lei è molto arrivato ed ha molto ragione, vero? Nello stesso Piemonte c'erano delle correnti che reagivano a questa propaganda degli emigrati lombardi, che trovavano, anche se si trattava molte volte di grandi proprietari, che i vecchi piemontesi, chiamiamoli così, già capito, no? I tradizionalisti, eccetera, trovavano molto scomodi e li chiamavano, erano tutti clericali, quindi, ma non agivano in Parlamento, stavano rimandando. Quelli invece che avevano qualche influenza in Parlamento e che erano appunto clericali o vecchio Piemonte, e si arrabbiavano contro gli italianissimi, lei l'ha letta questa espressione, tra virgolette, questi maledetti italianissimi che ci rovinano, che ci fanno far spese, perché poi anche le fortificazioni, Casale, poi c'è la famosa storia dei 100 cannoni di Alessandria, la sottoscrizione, non mi ricordo più l'anno preciso, ma è già vicino al 59, credo il periodo di Massimiliano, no? E poi c'è la faccenda dei sequestri, quello sì, quando lei dice degli errori dell'Austria, quello è stato un, come dire, sembrava una cosa furba, perché sembrava di sottrarre loro dei redditi che avrebbero potuto usare in fondo per svolgere un'azione, ma si rendeva con questo il governo austriaco impopolare e li rendeva più rabbiosi. Io non so, non ho letto questi scritti di Ambrosoli, per dire la verità, che mi interesserebbe di sapere questi livelli, no? Lei li ha definiti come consolate. Ma certamente che, non so, c'è anche Torelli, c'è anche altri più noti, più diffusi, scritti di queste persone qui, che sono pubblicati o in Piemonte o in Francia e che contribuiscono ancora a mantenere viva una tradizione di disprezzo per l'Austria, che il governo austriaco abbia sottovalutato questo, adesso salvo dei ministri più intelligenti. Ci sono anche quelle memorie pubblicate, tradotte in italiano, di von Hübner, che sono interessanti a quel proposito. Ma insomma, io trovo giusto questo che lei dice, però, che certo, cioè non l'ha visto subito, prima non era d'accordo, era democratico. Bisogna distinguere soltanto quel problema dei sequestri, non si era soltanto un fatto di una legge, non è, qui do ragione alla signora che bisogna sempre distinguere di quello che faceva la legge nel Parlamento e di quello che si diceva a Vienna, che aveva un'autonomia nel suo. Già, non ci pensavo sì, abbastanza. Ed era questo uno dei difetti, cioè italiani, di non vedere proprio il tutto austriaco. Che vedeva soltanto quello che si faceva in Lombardia. Già. È stato voluto da Radetzky questo? Sì, l'hanno recuperato. Sinceramente? Dopo questi sequestri hanno mandato. Ma li hanno tolti poi a un certo punto? Sì, e hanno mandato dopo questi sequestri tutti lì da Zlatos per legare le mani a Radetzky perché non faccia più delle stupidaggini del genere. È venuto a mettere poi, no? No, ma di solito era molto generoso. Nel 49 invece aveva voluto essere generoso, l'ha detto. Sì, no, ma dopo il 53. Appunto. Certo. Questa era la vendetta del 50 di Racca e dei Gianni. E hanno mandato da Vienna quel re che era civile, poi si lamentava tanto, ha detto che mi mando uno dopo l'altro, non mi posso fare niente. Già. Interessante questo. Grazie. Herr Will, möchte ich wieder zu einem anderen Thema ein Thema, was uns mit der gestrigen Diskussion wieder verbindet. Herr Passeran hat eben mit Recht ja sehr ausführlich von dem Amalgam gesprochen, zwischen Bürgern und Adeligen. Und wenn wir eben vergleichen, da kann man nicht offen und deutlich genug sagen, dieses Amalgam ist eben in der Führungsmacht Deutschlands in Preußen nicht zustande gekommen. Und das erklärt eben sehr viele grundsätzliche Unterschiede. In Deutschland, auch in Preußen, gerade im Rheinland-Westfalen, war das Bürgertum breiter und hatte eine viel stärkere soziale Stellung, als es wahrscheinlich in Italien hatte. Aber es ist gegenüber den starken alten Strukturen nicht zur politischen Macht gekommen. Es ist zu großem sozialen Einfluss, zu großer Wirtschaftsmacht, aber nicht zu politischer Macht gekommen, sodass etwa als der Verfassungskonflikt ausbrach, 1800, also schon im Gange war, 1862, die gestern ja genannten preußischen Jahrbücher schreiben konnten, dass es sich dort um einen Kampf des Bürgertums gegen das mit den absolutistischen Tendenzen verbündete Junkertum handelte. Und in diesem Kampf sind die Bürger unterlegen. Die Situation in Süddeutschland ist anders. Da waren die Monarchien sowieso bürgerlicher. Die Bayerisch-Spanien, die württembergische Monarchie, und sie hatten um sich herum keinen so fest sozial abgeschlossenen Adel. Aber die Führungsmacht des neuen Deutschlands ist eben nicht Bayern und Württemberg und auch erst recht nicht Baden, sondern Preußen geworden. Und da gibt sich eben ein grundsätzlicher Unterschied für die gesamte Weiterentwicklung. Professor Passerin ha sottolineato la ragione che la classe dirigente di Cavour era un amalgam tra borghesi e una gran parte della nobiltà. E proprio questo amalgam in Germania, o almeno nella Prussia, non è avvenuto. Da noi la borghesia, soprattutto nelle province occidentali, era forse più solida, più ricca, più vasta, più larga che in Italia, però è giunta soltanto al potere economico e sociale e non al potere politico. Stava per prendere il potere politico proprio negli anni 60, il famoso famigerato conflitto per la Costituzione in Prussia all'inizio degli anni 60, risolto poi da Bismarck nel modo suo. Questo conflitto fu definito proprio dalle preußischen Jahrbücher come la lotta della borghesia contro i Junker e con tutte le tendenze assolutistiche congiunte con la classe dei Junker. Però, come dicevo, i Junker erano i più forti in quella lotta e perciò tutti gli sviluppi della Germania, anche degli inizi liberali, che poi sono stati stroncati, tutti gli sviluppi sono andati in tutt'altra direzione. Lo stesso non vale tanto per la Germania meridionale, dove le stesse monarchie avevano un carattere più borghese, in Baviera, nel Württemberg, soprattutto e anche in Baden, e dove non c'era accanto alle corti una nobiltà così chiusa in sé. Però, se da un lato proprio questi stati hanno poi visto degli sviluppi più borghesi e più liberali, nella Germania che si è creata tra il 66 e il 71 non c'era né la Baviera né il Württemberg, ma c'era la Prussia, la potenza dominante, e ciò spiega tante differenze. Ja, darf ich dazu noch etwas sagen? Ich glaube, die Sache wird noch komplizierter, aber das dürfen wir nicht übersehen, dass ja bei diesem Verfassungskonflikt steht ja interessanterweise zunächst auf der Seite des Bürgertums die preußische Bürokratie. Man hat ja festgestellt, dass die preußische Kammer, das Parlament, das Bismarck widerstand, zum großen Teil aus preußischen Beamten bestand. Diese preußischen Beamten, ob sie jetzt einen Adelstitel hatten oder nicht, waren Vertreter des Bürgertums. Ich komme wieder auf diesen meiner Meinung nach ganz entscheidenden Satz von Georg Franz zurück, der sagt, in Österreich wie in Preußen kam der dritte Stand als Bürokratie zur Macht. Diese Bürokratie steht zunächst gegen Bismarck und gegen den Absolutismus. Sie unterwirft sich aber dann, weil bekanntlich nicht einen so großen Erfolg hat wieder Erfolg, unterwirft sich dann mit. Sie wird auch gesäubert. Sie wird auch gesäubert. Später gesäubert, aber sie steht sich auch dann auf die Seite. Und etwas ganz Ähnliches ist ja auch in Österreich der Fall gewesen. Das heißt, dass hier eben das kein sagen wir, die führenden Kräfte des Bürgertums nicht ein industrielles Bürgertum waren, sondern ein bürokratisches Bürgertum. Posso dire brevemente anche l'italiano, quello che ha detto, la cosa diventa più complicata anche per il fatto che in questo famoso conflitto in Prussia il Parlamento consisteva in gran parte di burocratici che naturalmente della burocrazia, la burocrazia qui come una parte della borghesia, perché in Prussia come in Austria la borghesia è venuta al potere in forma di burocrazia. Questa burocrazia che opponeva Bismarck e l'assolutismo fu poi naturalmente disciplinata e epurata perché dipendeva più dallo Stato, non aveva questa posizione indipendente che una borghesia industriale, una borghesia ha di fronte alla corona e allo Stato. E questo forse spiega anche quella sconfitta della borghesia in Prussia, a parte la situazione poi che è diversa, come ha detto lì giustamente, nel Württemberg, nella Baviera, eccetera, dove la monarchia si era imborghesita e dove non ci fu una casta come quella dei Jung in Prussia o anche come l'aristocrazia in Austria. In Austria è di nuovo un po' differente, ma qui quando mettiamo di fronte borghesia da un lato e aristocrazia e monarchia dall'altro, dobbiamo sempre tener conto di quel strana cosa che è la burocrazia di origine borghese tirata su dall'assolutismo contro l'aristocrazia feudale e poi è diventato una specie una classe di per sé. Questa burocrazia è una classe che usando solo i vecchi schemi di aristocrazia, borghesia, proletariato si trascura, secondo il mio modesto parere, troppo. C'è un ottimo studio, quello della collana della storia universale, che in Italia è tradotto da Feltrinelli, non mi ricordo più, in Inghilterra, America, qual è la casa di... C'è la parte su quel periodo lì in cui proprio quello che dice è messo in rilievo. Che l'ha fatto? Che c'è gente che se ne occupa. Sì, ma dico. Lo dice molto bene. Questo è come si chiama? Quello che ha scritto anche sulla crisi. Se mi permetti una piccola aggiunta, tu dicevi, in fondo questi Beamten riempivano il Parlamento, ma ecco, mi fa venire un desiderio di sapere qualcosa. Non c'era un limite per il Beamtentum, non poteva nei nostri parlamenti, per esempio, superare, c'erano delle difficoltà per far entrare dei deputati funzionari, c'era sempre delle discussioni poteva essere una piccola percentuale, poteva entrare qualcuno solo, invece lì la Camera prussiana aveva, credo, io non so, adesso non mi ricordo più, ma più di 60% e quelli che più tenevano testa a Bismarck al principio erano Beamten che poi Bismarck li puniva, furono poi destituiti, cacciati via come Beamten, perché ci voleva il coraggio per tenere. Hegel teorizza questo come la miglior forma di governo, perché la burocrazia è la classe universale e quindi la burocrazia deve essere maggiormente rappresentata nella Camera, nelle istituzioni rappresentative. Già, ecco quel che dice Kozelek, dice la, in Russia ci si vantava, non abbiamo Verwaltung, ma abbiamo una Verwaltung che è modernissima. Sì, sì, perché quello era della, nella grande tradizione di Stein e Hardenberg, ma anche l'Austria sempre diceva, noi non abbiamo, cioè avevano poi una Verwaltung, anche la Prussia aveva una Verwaltung, no? Ma però, non so se era un detto o se era qualcosa che è stato scritto in qualche teoria, non so, non mi ricordo. Ecco, volevo fare una domanda a questo proposito, cioè la burocrazia di origine borghese, ecco, aveva la tendenza, come per esempio è avvenuto anche in Francia, nei tempi di XIV, quando aveva raggiunto soprattutto gli alti, i gradi più alti, a chiedere una nobilitazione, sì, perché questo è poi quello che dà significato, la rapporto tra le classi, sì, no? Sì, questo, chiedere questo. Sì, e l'ha ricevuto anche senza chiederlo spesso, così spesso nei nostri convegni italiani ho notato spesso le discussioni che qualcuno diceva quell'aristocratico barone Ba, ma diavolo di aristocratico erano? Il barone Bruck era il figlio di un rilegatore di libri protestanti di Elbafeld, il barone Bach era il figlio di un avvocato e il nipote di un rentmeest, cioè di un amministratore, di un fattore dell'aristocrazia. Erano nobilitati, baronizzati dopo, ma né Bruck né Bach possono essere considerati uomini dell'aristocrazia, non furono neanche considerati dall'aristocrazia. Verso la fine dell'Ottocento avviene poi che, dato che anche gli aristocratici entravano sempre o spesso, specialmente i figli non primogeniti, i cadetti entravano nella carriera amministrativa, allora erano colleghi di questi burocratici, avendo dei matrimoni, eccetera, allora queste differenze fra aristocrazia e alta burocrazia nobilitata un po' si sciolgono, ma rimangono ancora fino a un certo punto, in Austria, che l'aristocrazia è dal barone in su, mentre i nobilitati sono fino al barone, cioè i conti e i principi sono vera aristocrazia, le famiglie dei feudi, eccetera. I nobilitati semplici, von Edla, von Ritter, von barone, fino al barone si arriva alla borghesia. Come per esempio questo era anche il limite magico per gli ebrei nobilitati. Le grandi famiglie industriali ebraiche nobilitate arrivavano fino al barone, come il barone Rothschild, o rimasti ebrei o diventati cattolici, ma nessun ebreo poteva mai diventare conte in Austria, anche se diventava cattolico, eccetera. Abbiamo solo verso la fine della monarchia in Austria, si ha quel caso che alcuni diplomatici vengono, o anche il generale Konrad per esempio, o il ministro Ehrenthal, vengono fatti conte pur non essendo della vecchia, o il Wiener Schmerling per esempio, pur non essendo della vecchia aristocrazia. Ma questo era, diciamo, il limite magico sopra il barone. Io vorrei insistere anche sull'aspetto del modello, che è quello che secondo me dà veramente significato all'evoluzione storica della cosa, delle classi, no? Sì. Cioè, di possono essere degli aristocratici che si comportano come dei borghesi, hanno per modello la borghesia. Sì. E ci sono invece dei borghesi che si comportano avendo per modello l'aristocrazia. E questo avviene specialmente in Italia molto, perché gran parte della borghesia italiana ha adottato il modello aristocratico ancora fino adesso. No? Capite? Weil ich noch ganz kurz ergänzen zu dem, was der Lil sagte, einfach darauf hinweisen, dass in Italien einmal der Adel natürlich sich spaltet gegenüber dem liberalen Einheitsstaat. Dann Piemont war für den Adel relativ einfach, in einem größeren Teil die Loyalität vom Haus Savoy auf den liberalen Einheitsstaat zu übertragen, weil es immer noch dieselbe Dynastie war. Man sieht, Savoy treu, obwohl natürlich auch in seinem Piemont eine adlige Schicht, eine adlige Gruppe gegeben hat, die sehr stark antiliberal war, die dann erst als sozusagen Alt-Piemontesen opponieren und später in die radikale Opposition als Führer eintreten. In den meisten Teilen Italiens habe ich den ganz rohen Eindruck, als ob der größere Teil des Adels gegen die neue Ordnung fordert. Anhänger des Ancien Regime bleibt und dann in die katholische Opposition einströmt. Aber wir haben eben sehr wichtige adlige Minderheiten, die modernisieren und deswegen liberale werden oder gar Demokraten werden. Wir müssen aber auch bedenken, dass es in Italien enorm wichtig ist, wie stark gespalten dieses, meines Erachtens, reine Manzon italienische Bürgertum war. Wir haben nämlich bürgerliche Schichten, die liberal oder gemäßig liberal sind. Wir haben einen beachtlichen Anteil an Handel, Gewerbefeindschaften, wenn man eine Reihe von Biografien statistisch aufgeschlüsselt, der republikanischen und der klerikal-reaktionären Opposition. Da haben wir einen beachtlichen Anteil von Handelsfreien, Berufen, Gewerbetreibenden an der republikanischen Opposition. Aber wir haben eben auch sehr starke Teile bürgerlicher Schichten, die bei der Ancien Regime und der klerikalen Opposition stehen. Das vergisst man, glaube ich, bei dieser Diskussion, oder bei der komparativen Diskussion so oft, dass das Bürgertum keineswegs einheitlich auf Seiten der neuen Ordnung stand. Und ist eigentlich Correnti. Ja. Und das ist ein Punkt. Dann würde ich sagen, wir sehen zu oft, da war die Bürokratie, Bürgertum im Vergleich mit Industriebürgertum. In Italien gab es meiner Sache, ich habe das im Artikel, zu dem du so freundlich gesagt hast, sehr betont, ganz heterogene, voneinander abgedrängte, kaum kommunizierende, liberale Schichten, von denen das Industriebürgertum überhaupt das kleinste, jüngste und schwächste war. Da haben wir Bürokratie, Richterstand, wir haben bürgerliches Land, für das große Landrechte, die eben modernere Betriebe führen. Wir haben Militärs, die Rolle des Militärs als modernisierende Elite vor 48 in Italien wird auch zu wenig gesehen. Das spielt immerhin eine Rolle. Das gibt es auch in vielen anderen Ländern. Spanien ist der klassische Teil dafür. Wir haben also sehr verschiedene bürgerliche Gruppierungen und wir dürfen nicht so stark immer gleich fragen, Liberalismus und Bürgertum. Liberalismus, Bürgertum und Industriebürgertum. Bildungsbürgertum oder auch ganz bescheidenes Bürgertum. Wir haben meist keine Autonomiebescheid, die der sogenannten Proprietari-Terrieri waren. Bisquete hat das mal aufgeschlüsselt, wir wahlberechtigt im Königreich Piemont zu haben. Das sind kleine Klitschen, um das ganz hart auszudrücken. Das ist das ganze System bescheidenes. Und wir haben eben die verschiedensten Schichten, die so zwischen so vom Hauslehrer angeht, das bis zum großen Besitzer. Da müssen wir viel mehr Segmentierung sehen, denn die eine Schicht hat nichts mit der anderen zu tun. Also Vorsicht, Bürgertum kann eben moderne Agrarwirtschaft bedeuten, Bürgertum kann gebildetes Bürgertum bedeuten, es kann aufgestiegene Landpächter sein und das ist je nach Gruppierung ganz verschieden. Ich wollte das einfach. Ja, das Se posso aggiungere poi. Dunque, sostanzialmente trovo molto giusta l'accentuazione data da Ulrich a questa estrema varietà del ceto medio, se non così. Però al borghesia anche questo non c'è così. E che può essere anche di fattori che sono saliti, no? Borgestigen, De Fredis, già è vero, l'astro di Nassier di Trastrell. E poi, non so, possono essere ma dal maestro di scuola, eccetera, eccetera. Mi è venuto in mente questo, a questo proposito, credo che la signora che conosce bene il Mar di Venezia ce l'avrà anche già in mente, quello che chiamavano il proletariato intellettuale che girava attorno a certe riviste come il Conciliatore. Pellico era molto povero, per esempio, quando era liberale, e poi dopo è sopravvissuto, dopo la prigione, dopo lo Spielberg, per la munificenza di una ricchissima francese, De Colbert, che aveva sposato un barolo e che l'ha ospitato, si vede ancora da casa dove è sopravvissuto, era molto deluso. E così a Firenze, attorno all'antologia, c'erano dei proletari intellettuali come Niccolò Tomaseo, che hanno avuto una grossa rolle nel movimento nazionale, sono andati in esilio, eccetera. Però c'era anche il Marchese Capponi, insomma, ecco l'amalgama che Giuseppe ha definito. Grazie, Gaube, non possiamo più tradurre. Ulrich hat ja so deutlich gesprochen, dass auf Deutsch, und ich credo che ringrazio tutti gli intervenuti e ricordo alle tre al Palazzo del Buon Consiglio per la visita alle due mostre. Adesso andiamo a mangiare su. Sì.